È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Voglio restare tutto il giorno in una vasca, con l'acqua calda che mi coccola la testa, un piede fuori che si infreddolisce appena, uscire solo quando è pronta già la cena, mangiare e bere sempre solo a dismisura, senza dover cambiare buco alla cintura. Siamo qui, caro Parenzo! Eccoci! Hai capito tutto da questa canzone già, eh? Ma posso intuire che si parla di bagni, insomma, questo sì. Di ristrutturazione di bagni, per carità, ci sono cose più importanti, la sentenza della Corte Costituzionale sul legittimo impedimento, che è stata bocciata in parte, col PDL che dice che è un colpo alla democrazia, addirittura per voce di Bondi, invece il Partito Democratico esulta, ci sono due commi illegittimi, decideranno i giudici, cose molto complicate ma anche molto interessanti. C'è la direzione del Partito Democratico con una semispaccatura all'interno, ma credo che interessi pochi, anche perché la linea del Partito Democratico francamente tu l'hai capita, io no, forse nemmeno tu. Difficoltà, ci vuole un carondimonio che ci spieghi che succede. Ci vuole un traduttore, come per le parole di Vendola ogni tanto, ci vuole un traduttore per capire cosa vuole il Partito Democratico. Ma al di là di tutte queste cose così importanti che succedono nella politica, c'è la questione dei bagni. Tu, per ristrutturare il bagno di casa tua a Siena, quanto hai speso? Per carità. No, ecco, sono contento che mi hai fatto questa domanda, perché la prima cosa che ho fatto è farmi fare un preventivo. Sì. Perché si trattava di soldi miei, non di soldi pubblici, quindi certo, mi sono interessato alla vicenda. Sì. Ma poi, dopodiché, io il bagno di casa ho preso semplicemente cioè, come si dice, un lavabo, no, quello dove si fa la pipì, come si chiama? Un water. Sì, il water, sì. Ecco, un water, non un bagno alla turca, un water nuovo. Sì. Che da listino costa 400 euro, 300 euro. A farla lunga, ho speso 2000 solo, euro. Solo il water, diciamo, si stima che un bagno possa anche essere ristrutturato sui 10.000 euro, un bagno normale. Poi, naturalmente, fai un bagno pazzesco. Se fai un bagno pazzesco, puoi spendere anche 30-40.000, forse anche 100.000 euro. Però, qui cosa c'è in gioco? Il denaro pubblico. Il denaro pubblico è un palazzo del 500, un palazzo molto bello. Però, senti cosa accade a Genova, via. Bagno turco con illuminazione per la cromoterapia, costo 9.538 euro. Vasca idromassaggio asimmetrica, 8.577 euro. E poi oltre 12.000 euro per i rivestimenti in marmo verde e bianco, ma l'elenco non si ferma qui. Rubinetteria, sanitari, tutto di super lusso, come si può vedere nei migliori showroom del settore. Spesa totale 105.564 euro. Ma non siamo a casa di qualche divo di Hollywood, siamo nella stanza da bagno di Francesco Musolino, prefetto di Genova. È pur vero che il palazzo cinquecentesco della prefettura di Genova è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, ma oltre 100.000 euro per la ristrutturazione di un bagno sembra davvero troppo. Soprattutto se a pagarli è stato il Ministero delle Infrastrutture, ovvero tutti noi contribuenti. Una cifra davvero esagerata, si stupisce oggi il prefetto. Se avessi saputo che il costo era così alto, dice oggi, avrei fermato i lavori. Anche se i servizi igienici andavano rifatti, continua il prefetto, da 30 anni nessuno li aveva mai ristrutturati, ma poi se ne è occupato qualcun altro, dice. E si sa come vanno queste cose, il preventivo iniziale alla fine li evita sempre. In questo caso, precisa l'impresa che si è occupata della ristrutturazione, un aumento fino al 30%. Adesso servirebbero altri lavori urgenti nel mio appartamento, dice il prefetto, ma per risparmiare ho suggerito di passare solo l'aspirapolvere. Domani non andrò neanche al lavoro. No, la cosa più clamorosa delle prime reazioni del prefetto è che lui dice di non sapere il budget di questa ristrutturazione, di non essere a conoscenza, cioè sapeva, naturalmente ha autorizzato la ristrutturazione e poi non se n'è occupato, il che mi pare francamente un po' singolare, o sbaglio? Ma hai completamente ragione, perché non sono soldi suoi, cioè l'unica spiegazione logica è che lui non si è interessato perché non sono soldi suoi. Poi scusa, un'altra cosa, se uno prova secondo te a cercare il prefetto per i canali istituzionali, no? Cercare di intervistarlo per avere una risposta, secondo te cosa ti dice? No, non risponde. Non risponde, dice. Se uno gli manda una mail, secondo me è difficile che in questo momento. No, una mail, così. Una telefonata alla prefettura, alla relazione esterna. Sta facendo il bagno in questo momento, probabilmente. Però non credo che ti risponda. Insomma, questo mi pare abbastanza. Lo stanno cercando tutti, mi pare evidente, non ti risponde. Ha già risposto a Repubblica come. Sì. Come abbiamo detto, si tratta di un appartamento di rappresentanza collocato in un edificio di grande pregio, non di un alloggio popolare, ma ribadisco che la cifra mi pare esorbitante. Beh, scusa, non dovrebbe saperla prima la cifra, non capisco, è il prefetto. È stato ricordato prima che è una dimora del 500 e che è patrimonio dell'UNESCO, però il cesso non può essere patrimonio dell'UNESCO, anche il bagno rifatto. Cioè, o il bagno è un'infrastruttura critica del paese, e quindi è un'infrastruttura critica il bagno del prefetto, allora lì necessito dei lavori strutturali, oppure anche il bagno turco, ho sentito bene, si è fatto pure il bagno turco. Sentiamo se riusciamo a collegarci col prefetto. Ah, che meraviglia. Vediamo. Dormiremo poche ore. Prefetto? Prefetto Musolino? Per poi svegliarci e rituffarci nella vasca. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso. Mi bagno, mi asciugo e inizia qui lo spasso. Vabbè, come hai sentito, è difficile oggi mettersi in contatto con il prefetto di Genova, ma continueremo a provarci. 800 24 00 24. Andiamo a sentire qualcosa su qualcosa ancora su Marchionne. I commenti moderati, direi, su Marchionne da parte del leader della CGIL Camusso, che dice che le fabbriche verranno trasformate in caserme autoritarie. Direi un giudizio soft, no? Piuttosto moderato, per carità. Sono le ultime ore di campagna elettorale, anche da Camusso deve un po' cercare di portare qualche no, no, alla. È interessante però, perché in tasca, però le caserme autoritarie, no? Le caserme è un concetto interessante, sentiamo, via. È l'impostazione di questa avvertenza che rende tutto un po' incredibile, e soprattutto questa idea che bisogna ricostruire fabbriche fatte come caserme autoritarie. Ci abbiamo messo molti anni a introdurre democrazia e libertà nei luoghi di lavoro, pare a noi un grande retromarcia. Mi giro e mi rilasso, mi bagno, mi asciugo e inizia qui lo spasso, mi ribagno. Anche Bertinotti, di ritorno dalle Bahamas, dove è stato nelle vacanze di Capodanno, sostiene che si tratta di una sorta di regime totalitario cinese. Quello che si sperimenta oggi alla Fiat è un modello di lavoro. Questo modello di lavoro che riduce così drasticamente le tutele dei lavoratori, che cancella il contratto nazionale di lavoro, perché addirittura mette in discussione la rappresentanza sindacale, è un regime totalitario, cioè un modello cinese proposto per l'Italia. Stare tutto il giorno in una vasca. Direi che dopo queste osservazioni così moderate della Camusso e di Bertinotti, chiunque è autorizzato, se vede Marchionne per strada, un operaio della Fiat, a dire tu sei una sorta di dittatore cinese, uno spietato nazista, e dunque posso anche. No, nazista no. Beh, insomma, regime autoritario. Regime autoritario. Pongono problema sui diritti, che secondo me. Sì, non è che pongono il problema sui diritti, dicono che è un regime. Vogliono trasformare le fabbriche in una sorta di regime autoritario. No, cioè, in una un'altra caserma, cosa. In una caserma, non è vero che non c'è democrazia. Attento, in una caserma ci sono delle regole, ma in una caserma italiana c'è democrazia. Sono mica le caserme del Cile. Beh, insomma. Distinguere tra caserma e caserma. Calearo, la FIOM in Cina, ieri Titanic Italia, senti. La FIOM dobbiamo trasferirla in Cina, devono fare in modo che gli operai cinesi abbiano gli stessi diritti degli italiani. Come allora Cina, diremo, è in Cina che ci fa la concorrenza, che sono tutti comunisti, però lavorano 30 ore e prendono 100 euro. Ma dai, no, che cazzo, dobbiamo la FIOM da trasferire in Cina. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso, mi bagno, mi asciugo e inizia qui lo spasso, mi ribagno, mi rituffo, mi rigiro, mi rilasso. Moderazione per moderazione, avete sentito il commento di Sandro Bondi alla sentenza della Corte Costituzionale, caro Parenzo. E anche qui siamo veramente alla fine, eh? Alla fine di tutto, dici? Alla fine, perché? Di tutto, sì. Perché se Bondi, ho letto l'agio di agenzia, ha rovesciato l'ordine democratico. Ma come sarebbe rovesciato l'ordine democratico? Sentiamo Chiamparino su Sky TG24 che mi pare abbia detto delle cose ragionevoli sulla Fiat. Senti. Siano effettivamente al massimo livello di innovazione. Resta aperta la necessità di incalzare il governo perché faccia della mobilità sostenibile un fattore di politica industriale. Resta aperta la possibilità di rimediare anche alle criticità dell'accordo come quello della rappresentanza, perché l'accordo entrerà in vigore fra un anno. Qui si entra nel dettaglio, ma oggi in un'intervista Riformista Chiamparino dice Marchionne andava colto col tappeto rosso. Sì. Questa sinistra fuori dal mondo mi ha stufato. Bene. Berlusconi aveva detto a proposito del legittimo impedimento che sarebbe andato in televisione a spiegare tutto, ti ricordi? Sì, come no. Risentiamolo. Questa volta l'unica cosa che ho già avuto modo di dire in televisione è che io spiegherò agli italiani di che cosa si tratta e verrà fuori quella che è la patologia della nostra democrazia, della presenza di un ordine giudiziario che si è trasformato in potere giudiziario esorbitando da quello che è il suo alveo costituzionale. Detto fatto, perché Berlusconi sarà domani in diretta, domani mattina, mattino 5, vabbè, credo, intervistato domani da Maurizio Belpietro, sì. Il programma di Maurizio Belpietro è molto bello, fa sempre notizia, potrebbe chiamarsi anche La Telefonata. Beh, quando, così, e allora? Perché quando Berlusconi ha bisogno alza il telefono, vabbè, e no, chiama o Ballarò, sì, o però, Mattino 5. Diciamo la verità. Telefona, sì, non è che si presenta. Sì, maestro, lascia perdere l'ironia. Telefonare domani o sentire Berlusconi domani sul legittimo impedimento è una notizia. Cioè, ma magari è meraviglioso. Allora, certo, di che magari parliamo? Potresti farlo io, magari chiamassi il Titanic, che non sa che esisto, ma voglio dire, se chiamasse. Appunto, per cui piacere. Adesso non criticare Belpietro perché domani chiama Berlusconi al Mattino 5. Non è una critica Belpietro, è una critica a Berlusconi che alza il telefono quando vuole, però uno gli fa le domande e lui non risponde. Ma come no? Ci sono le domande, poi se uno dipende che domande sono, dipende dalle domande, ma io non l'ho mai visto in un dibattito all'anno zero, ad esempio. Capito, ma tu scusami, adesso lascia perdere questa cosa. Tu vedi i primi ministri che vanno ai dibattiti televisivi? Ma quando mai? Non esiste un primo ministro che va a un dibattito televisivo. Primo, perché non ci sono dibattiti talk show in Europa uguali ai nostri. Secondo, non c'è un primo ministro che partecipa ai dibattiti televisivi. Lascia perdere il fatto che Berlusconi partecipa telefonicamente. E ogni tanto chiama telefonicamente sbagliando, secondo me. Ma non è che esiste il primo ministro che va a fare i confronti in giro. Anche questa storia del confronto innescata da Sky, detto con tutto il rispetto di Sky, è una buffonata, se ci pensi bene. Ma cosa c'entra? Non è che durante gli anni di presidenza Obama fa un confronto con i leader dell'opposizione repubblicana. È una cosa inesistente, non lo fa mai, se non durante la campagna elettorale presidenziale. Lì ma sono Obama, non penso che telefoni alla BBC. Ma quello è un altro discorso, ti ho già detto che hai sbagliato. Su questo, ma dopodiché facciamo. Ho capito, ma qualcuno vuole imporre il confronto tra Berlusconi e il leader dell'opposizione che non si sa bene quale sia, durante l'attività normale di governo. È una cosa assurda, perché anche in Francia, in Inghilterra, in Spagna, non è che c'è Zapatero contro il leader del Partito Popolare un anno dopo le elezioni. C'è il confronto durante le elezioni, poi non c'è più nulla. Traffico, torniamo. Voglio restare tutto il giorno in una vasca con l'acqua calda che. Eccoci mi qui, 18:47, 800 24 00 24. Berlusconi, prima dichiarazione sul legittimo impedimento, compromesso accettabile. Ah, quindi lui dice accettabile. Questo viene da Berlusconi. Lui Alfano, mentre i suoi dicono che è uno schifo. E Alfano sente. Sì, questo loro prima di telefonare. Questo è bizzarro. Bondi dice rovesciato l'ordine democratico perché la parola torna ai giudici, no? Sull'impegno di Berlusconi, sull'impedimento di Berlusconi. E Berlusconi dice invece con compromesso accettabile. Alfano, sentenza conferma lo spirito della legge. Ma insomma, Bondi prima di parlare potrebbe consultare sia Berlusconi che Alfano, però, perché altrimenti non si capisce. È davvero il popolo della libertà, ognuno dice quello che cazzo gli pare. È confermato che è così. È il popolo della libertà. Bellissimo. Bene, Federico, provincia di Pescara, 800 24 00 24. Buonasera. Buonasera, Cruciani. Dica. Mi sente? La sento molto bene. Senti, sai che volevo dirti? Senti, che io ti seguo. Sì, ma diamoci del lei che è meglio. Vabbè, del lei o del tu, non ho capito. No, del lei, diamoci del lei, così del ci troviamo lei. Meglio. Beh, sì. Io ti seguo. Molto ancora, mi dà del tu, continua a darmi del tu, va bene, mi dia del tu, faccia quello che vuole, ma se proprio le dà fastidio darmi del lei. Ti seguo anche sulla carta stampata, sul panorama, va bene. Siamo qua dalla provincia di Pescara. Potrebbe dire la seguo, così, tanto così, almeno mi trovo più a mio agio, Federico. Le viene così. Anche sulla carta stampata, lei c'ha la rubrica su va bene, panorama. Sì, sul panorama, d'accordo, lo sapevamo già da più di un anno. Un piccolo appunto. questo le volevo fare. Sì. Condivido anche molte delle sue linee, del va bene. Impegno, e allora non ho nessun impegno, Federico. Cioè, scrivo quello che mi pare, quello che mi viene, mi passa per la testa. Non c'è l'impegno, non è che sono impegnato in una battaglia. Sono intervenuto, sai perché? Ancora. Per correggere un po' il tiro della trasmissione in senso positivo e con la massima serenità. Corregga. Secondo me lei, ecco, batte sempre bene con le trasmissioni, affronta dei temi interessanti, fa dialogare la gente. Poi però diventa insofferente nel momento in cui si trova a dialogare con i lavoratori. Con i lavoratori? Con i lavoratori? Che significa con i lavoratori? No? Questo, soprattutto con le classi. Con le classi un po' più umili. Ma che significa con i lavoratori, Federico? Tutti sono lavoratori, tutti sono lavoratori. Lei è un lavoratore, io sono un lavoratore, Parenzo è un lavoratore. Ma insomma, mica allora diciamo lavoratori con lavori più umili di quello. Mi trovo in difficoltà. Beh, guardi che ieri ha chiamato un operaio da Mirafiori, non ero a disagio. Io noto che comincia a sbuffare, comincia a essere insofferente. Vabbè, non mi pare un argomento di grande interesse, Federico. Così, detto papale, non mi pare un argomento che entusiasmi le tantissime persone che ci stanno ascoltando. Però non si inquieti. Non mi sto inquietando, parliamo di una cosa seria, concreta, di un problema, non di come conduco io la trasmissione, di come mi rapporto agli ascoltatori. Abbia pazienza, Federico, non gliene frega niente a nessuno. Mi dia un consiglio, avanti. Faccia un po' mia madre, avanti, mi dia un consiglio, su. Mi dia un consiglio. Di essere più sereno. Sono serenissimo, sono come la Repubblica di Venezia, sono serenissimo. Quando viene ripreso si altera. Va bene, sono un po' ogni tanto sono un po' suscettibile, è vero Federico, sono un po' suscettibile. E che devo fare? Guardi che io in radio, Federico mi scusi, la interrompo perché adesso ho un ospite. In radio sono esattamente come sono nella vita, per cui lei ogni tanto si inalbera? Sì, ogni tanto si inalbera, sì. Io anche. Allora io anch'io, ogni tanto così, in radio faccio la stessa cosa, è uguale. La ringrazio. Scilipoti, buonasera. Buonasera a lei, come sta? No. Perché Parenzo, perché dici no? No. Perché dici no? Sì, in una giornata come questa, Scili, voglio dire, parliamo della sentenza della corte. Lo sento male. Parenzo, come si chiama? Perché non mi ricordo mai questo cognome, perché è un cognome importante, ma non me lo ricordo. Parenzo, lo storpi un po' il nome, come fa Fede con i nomi, lo storpi un po'. Terenzio, okay. Terenzio, sì, quel Terenzio lì, quel Terenzio. Come sta Terenzio? Sta bene? Come stai, dice? Bene, ho mal di testa solo a sentirlo. Ho capito. No, è il problema sempre il solito. È sempre il solito. Senta, Scilipoti, parlando di cose serie, che è un po' di tempo che lei non parla, come mai non parla più? Meno male che parliamo di cose serie e non parliamo di Terenzio. Queste cose serie effettivamente significa il contrario di Terenzio. Senta, Scili, signor Scilipoti, grazie. Signor Scilipoti, questo gruppo di responsabilità nazionale, io voglio capire lei che ruolo ha. Quale gruppo di responsabilità? I tre? Caseario? Manco lei li sa i nomi, Caseario. Caseario, Scilli e poi l'altro com'è, Bruni, una cosa del genere, oppure il gruppo dei 22? Il gruppo dei 22. Lei che ruolo ha in questo gruppo? Il ruolo del parlamentare. No, non è tipo il capogruppo, no, perché ancora non si è. Capogruppo di che cosa? Non si è formato un gruppo ancora. Non abbiamo formato il gruppo, come c'è un appunto, capogruppo. Sono 22 parlamentari che stanno lavorando a un progetto nell'interesse degli italiani. Sempre nell'interesse degli italiani. Sempre nell'interesse. Ad ogni cosa. Certo, diventa difficile per molti capire questo tipo di linguaggio, però è così. È così. Senta, io volevo sapere una cosa da lei. Si parla molto di un allargamento di questo gruppo. Ora mi dica una cosa seria, vera però, Scilipoti. Perché normalmente non dico cose serie. No, lo voglio ribadire, non sto dicendo che lei non dice cose serie. Questo gruppo si allarga oppure no? Si allarga, per noi non è importante allargare. Ho capito, già subito il politichese. Il politichese, poi mi faccia completare il mio ragionamento. Per noi non è importante allargare il gruppo, noi abbiamo un progetto da portare avanti che è quello di giorno 14, non far cadere la possibilità di far cadere un governo, cioè mantenere un governo nell'interesse degli italiani. Abbiamo, ci sono delle degli occhi che ci guardano con grande interesse, che sono che alcuni parlamentari, anche loro hanno interesse a non far cadere il governo e a proseguire la legislatura nell'interesse degli italiani. D'accordo, va bene, allora torno alla domanda bomba, Scilipoti. Lei si può, è certo che questo gruppo si allargherà e dunque si formerà un gruppo parlamentare con il suo capogruppo, con tutti il gruppo parlamentare con 22 deputati c'è, perché il minimo è 20, perciò non capisco. Ma si formerà sto gruppo allora o no? Si forma non capisco il senso della domanda, perché a 20 c'è il gruppo parlamentare, siamo 22, perciò. Però ancora non l'avete formato il gruppo, abbia pazienza. Certo, perché non abbiamo formato il gruppo, perché ci siamo riuniti e abbiamo già incominciato a parlare e in settimana entrante ci riuniremo, formeremo il gruppo, facciamo anche un gruppo di lavoro a un programma che sarà allargato, no? Sarà formato da parlamentari e anche da esperti di settori che parleranno dall'esterno. Ma nuovi acquisti ci saranno o no? Qui è che siamo al supermercato che dobbiamo fare gli acquisti. Un po' di supermercato c'è stato. Parenzio, come si chiama lui, dico che siccome nel suo costume andare spesso al supermercato parla questo linguaggio. Noi non parliamo il linguaggio di comprare, ci dispiace. No, vabbè, ma comprare in senso di così, per far capire a tutti, insomma, ci saranno nuovi ingressi o no? Ma l'ho detto poco fa, quando lei mi ha fatto la domanda, ho detto che ci sono alcuni parlamentari che guardano con grande interesse questo... mi faccia un nome, Scilipoti, mi faccia un nome. Ma che importanza ha i nomi? Scusi, come che importanza? Se uno si chiama Bianchi, Rossi o Nero. Beh, certo che ha importanza. Alcuni parlamentari che guardano con grande interesse questo gruppo dei 22 parlamentari che portano avanti il principio della responsabilità nazionale. E qual è questo principio? Come qual è questo principio? Scusi, quello di non far cadere il governo. Lei è come il dice la... Il direttore del Corriere della Sera che non riesce a capire bene il linguaggio. Battista, lei dice, Battista l'altro giorno a Ballarò. Non lo so come si chiama lui. Vabbè, lo conoscerà il nome del vice direttore del Corriere della Sera, no? Certo, qualche difficoltà dico a leggerlo bene, però tutto sommato lo conosco. Lo conosce. Battista, come si chiama? Battisto. Ma visto che anche lei dice come si chiama. Come si chiama? Vabbè, Scilipoti, senta, ho il giornale radio. Siccome lei ci ha risposto in ritardo, ci deve qualche altro minuto, dopo il giornale radio. 800 24 00 24, dopo. Eccoci qua, caro Parenzo, 800 24 00 24, David Parenzo in collegamento da Roma, il sottoscritto in collegamento da Milano, questa è la Zanzara, 800 24 00 24. Direi di andare a sentire i titoli del TG3. Legittimo impedimento bocciato in parte dalla Consulta, sarà il giudice a decidere su eventuali impegni del Presidente del Consiglio. Bondi attacca rovesciati i cardini della democrazia, Ghedini frena, valido l'impianto della legge, l'opposizione di fatto è una bocciatura. Confronto acceso in direzione PD, approvata la relazione di Bersani, ma i veltroniani non partecipano al voto, polemica sugli incarichi. La polizia spara nel centro di Tunisi, per l'opposizione i morti sono ormai 80 e cominciano a scarseggiare i viveri, il racconto dei nostri inviati. Fiat, tra poco il via al referendum per dire sì o no al piano Marchionne, domani notte il risultato, la Camusso, la Fiom resterà in fabbrica. Ecclestone boccia la Formula 1 a Roma, la Lega esulta, Le Mans faremo un passo indietro, intanto la capitale è ancora senza giunta. Occupata la sede del CNR Roma, i ricercatori in rivolta non vogliono passare sotto la gestione diretta della Gelmini e temono drastici tagli di fondi. Voglio restare tutto il giorno in una vasca, con l'acqua calda che mi coccola la testa, un piede fuori che si infreddolisce appena, uscire solo quando è pronta già la cena, mangiare e bere sempre solo a dismisura. Il prefetto di Genova, voglio chiamarlo, fatemi il numero del prefetto di Genova, su. Caro Parenzo, ma dovrà dare una spiegazione, no? Teoricamente dovrebbe. Cifra alta, ma non è una casa popolare, ha detto. Ho capito, una casa popolare, 100.000 euro, però. poi dice si tratta di un appartamento di rappresentanza. Capito, cosa deve far fare? Il bagno a quest'ora? La cifra mi pare esorbitante, ma come non la sapevi la cifra? No, lo sapevo di cosa deve fare, il bagno a quest'ora, che deve fare? E che ne so, sentiamo. Telefono? Niente, l'ha eliminato il telefonino, secondo me. Cioè, poi come fa ad avere il controllo del territorio se non ha il controllo del bagno di casa? Cioè, se non c'ha il controllo sulle spese lì, e capisco che non li ha tirati fuori di tasca sua, ma c'è delle regole, è il prefetto, no? Dovrebbe controllare centesimo per centesimo quanto viene speso per la ristrutturazione del bagno, del suo bagno. Va bene. Il bagno turco anche c'è, cioè, è vero che c'è il bagno turco, così hanno scritto. Pare di sì, idromassaggio. Idromassaggio, ormai ce l'ha chiunque l'idromassaggio. Beh, quasi chiunque. Io beh, insomma, idromassaggio, chiunque. Vasca idromassaggio simmetrica, non ho capito cosa bene. Come simmetrica? Cosa. Non lo so, così è. Poi dispositivo per la cromoterapia, bagno vabbè, turco, marmo verde e bianco, rifiniture di altissima qualità. Che vuoi fare? Vabbè, direi di andare a sentire quello che accade nel programma di Signorini, perché non c'è solo Berlusconi che interviene, eh. Ospite d'onore questa volta Bocchino, Italo Bocchino, che si è messo addirittura a cucinare. Senti quello che è accaduto, senti. Italo, ma tu cosa ci prepari stasera? Mi preparo un piatto semplicissimo, quello, cioè? Che faccio alle bambine la domenica sera. Uno spaghetto con il tonno, ma buonissimo. Spaghetto con il tonno, ma buonissimo. Già avete... Faccio sempre anch'io spaghetto con il tonno, quando mi avanza il tonno. Ho gli ingredienti, adesso cuciniamo. Però non è che si può poi accusare di Mediaset o non so chi altro, di tutti i media, del premier, di dittatura, di bastonatura, eccetera, quando vai nella trasmissione di Signorini a cucinare, eh. Ma lui questo, no, questo si dimostra invece molto gramsciano, cioè va nei luoghi dove c'è dove può raggiungere potenzialmente più persone possibili, quindi è un ottimo politico in questo. Ho capito, ma tu non vai, allora o consideri Signorini come qualche volta ha detto, tra l'altro, lo stesso Bocchino, una sorta di... Ieri l'ho seguito, era molto bello, una delle trasmissioni più belle che ci sono oggi in televisione. Cosa gli ha detto? C'è dovuto, gliel'ha cantate, gli ha detto... Sei lo spin doctor di Berlusconi. Se Berlusconi ascoltasse un po' più te e un po' meno la Santanchè, forse le cose andrebbero meglio, gli ha detto. Sì, però quando lo ha detto, non ieri sera, ma in altre occasioni, non era proprio positivo Bocchino. No, poi è andato a cucinare gli spaghetti. Sentiamo ancora... Bocchino che cucina gli spaghetti senza aglio. Cos'è questo? Spaghetti di tonno, ma sono shue al dente? Sì, eh? Ventresca di tonno. Ventresca di tonno. Allora aspetta che li arrotolo, vediamo un po'. Non se... ci ho messo l'aglio perché so che ad Arcore non lo usate. Ma io non sono mica Berlusconi, io nell'aglio ci sguazzo. Va bene? Mi assumi? Buono. Voglio restare tutto il giorno in una vasca, con l'acqua calda che mi coccola la testa, un piede fuori che si infreddola. Qualcuno ci segnala che esiste effettivamente una vasca idromassaggio simmetrica, eh? Esiste come pezzo da mettere in bagno. Naturalmente costa molto di più, come è evidente. Ancora Bocchino versus, anzi no, in questo caso non è versus, è con Signorini. Ti sembrerà strano, ma è una proposta politica che voglio farti. Allora ti è vero che sei lo spin doctor di Berlusconi? No, perché? Guarda, io sarei contento. Saresti contento? Dalla Santanchè a Signorini salviamo l'Italia. Insomma. E basta, staremo tutti insieme nella stessa vasca. Risate grasse, meglio tu della Santanchè, ancora, ancora. Ma perché anziché andare a occhieggiare da quella parte là, non fumate il calumet della pace, fate la pace tra di voi, tra le due destre, almeno abbiamo un governo più stabile che l'Italia in questo momento ne ha bisogno, dico bene? Guarda, dici una cosa di buonsenso per la quale manca un elemento. Qual è? La volontà di qualcuno che non è moderato. Ma io glielo dico io a Berlusconi, tu Vai, lo dici a fine. Io lo dico a fine. Allora fine io e te facciamo il governo. Facciamo il governo. Vabbè, insomma, si diventa ultra popolari anche in questo modo, Bocchino ancora. Ancora Bocchino. Cosa? Che cosa interessa al direttore del più popolare giornale di gossip della stabilità? Cioè, vabbè, ma lo fa perché c'è Bocchino ospite, dunque deve parlare anche un po' di politica, no, a modo suo, diciamo. Deve parlare, no? Sì, no, ma la questione, però vedi il linguaggio, sì, però il linguaggio di Signorini in questo caso, non è Ferruccio De Bortoli, però è intellegibile a tutti, cioè è un linguaggio. Quando dice le due destre che si mettono d'accordo, fumate il calumet della pace, certo, dice una cosa chiaramente banale dal punto di vista politico, per noi che ci occupiamo di politica ogni giorno, che vediamo gli spostamenti, sottile. Invece è molto sottile perché parla a un pubblico vastissimo, appunto. E fa politica in questo, ma io mi chiedo che cosa gli interessa a Signorini di parlare di politica e della governabilità, chi gli frega, se non per uno, come dire, lavorando per un giornale che è molto molto vicino, per esempio, ma non gliene frega niente, lo fa perché c'è Bocchino ospite, dunque solo qualcosa deve dire, ma sì, ma non gliene frega, un ruolo politico. Ma che gliene importa della stabilità del governo, un ruolo politico. Ma cosa gliene importa della stabilità del governo Signorini, lo dice appunto. Perché c'è Bocchino ospite, gli fa la domanda la più semplice possibile, la più comprensibile possibile sulla stabilità del governo. Penso che abbia il, come dire, l'input di parlare della stabilità del governo, ma se appunto, è più sottile, perché Signorini fa politica. Ma che è un uomo sottile. Molto intelligente. Sei troppo, fai troppo dietrologia su questa no, cosa. No, ha un ruolo politico. Ma non è vero. Signorini ha un ruolo politico, è fuori di dubbio. Ma sì, ma politico perché tutto è politica, certo. No, certo. Ma conta di più Signorini. Politica pop, della... come scrive Aldo Grasso in questo caso. Esatto, ma di qualsiasi quotidiano conta molto di più chi è Signorini. No? Assolutamente sì. Quindi questo è un ruolo politico. Centrale. Sentiamo ancora Bocchino Signorini. Ma la Santanchè che ministero diamo? La Santanchè prende il posto. Io direi, allora, agli esteri c'è una persona diplomatica. Sì. O Sallusti o Belpietro. Ci mettiamo Sallusti. Eh sì, c'è un diplomatico. E senza così portafoglio. Così dichiariamo guerra a tutti. Senza, la Santanchè senza portafoglio, no, sei no, d'accordo? Assolutamente. Però con la borsa di Hermès. Assolutamente. Senza portafoglio, ministero senza portafoglio, ma con la borsa di Hermès. Voglio restare tutto il giorno in una vasca. Con l'acqua calda che mi coccola. Prefetto, la testa, risponda. Facciamo il centralino della prefettura, va. Magari lo troviamo. Solo quando è pronta già la cena. Signorini, Bertinotti alle Bahamas. Via. I Bertinotti, rifondazione, sinistra, guardali lì alle Bahamas che vanno sul loro pulmino, tranquilli, beati, tutti abbronzati. Oggi da Gospia, eccoli qua, riprendendo il foglio di Carlo Rossella, diceva, vabbè, i Bertinotti vanno anche loro alle Bahamas. Dopo D'Alema, St. Moritz, i Bertinotti alle Bahamas. Ma la bocciofila di Reggio Emilia, chi ci va? Così grande. Questa è una stupidaggine, naturalmente, quest'ultimo sulla bocciofila di Reggio Emilia. Eccala. E Bertinotti sulle Antille, sulle Bahamas. Ecco, via. Qualcuno l'ha criticata perché mentre è in atto questo scontro lei è andato in vacanza alle Bahamas. Che risponde? Che il primo non ero alle Bahamas. Dove era, scusi? Alle Antille. Alle Antille. E le Antille e le Caraibi, come sa, contengono isole come quelle di Bob Marley e come quelle di Fidel Castro. E in ogni caso ci sono stati dei pirati come Morgan e come Drake, ci può stare anche un comunista. Vabbè, questa è la risposta giocherellona, diciamo, di... Pirata il pirata Morgan Fidel Castro. Che succede? Ecco. Prefetto. Pronto? La prefettura. La prefettura, aspetta. Facendo bagno? No, è la prefettura, no, è il bagno, non credo. Centralino della prefettura di Genova, cos'è? Sarà il gabinetto. Pronto? Siamo sempre in collegamento con la prefettura di Genova, il centralino. Questo è importante. Ho capito, ma non risponde nessuno. Questo è uno scoop, Sì, ma la prefettura non risponde nessuno a quest'ora, alle 7:30, capito? Sono andati via tutti. Vanno via. Niente. Squilla il telefono. È l'idraulico, prefetto. Prefettura? È l'idraulico. Borsa, va, sentiamo le notizie dalla borsa, torniamo subito. Voglio restare tutto il giorno in una vasca, con l'acqua calda che mi coccola la testa, un piede fuori che si infreddolisce appena, uscire solo quando è pronta già la cena, mangiare bene. Eccoci qua, caro Parenzo, siamo tornati in onda alla Zanzara, 1933 800 24 0024. Sentiamo un po' se, sentiamo un po' se ci risponde la prefettura, il prefetto di Genova, così ci spiega questa storia della vasca, idromassaggio, la cromoterapia, i marmi, il verde, il bianco, Il telefonino, voglio il telefonino. Eccolo, risponde il telefonino. Zitti. Due stelle. Potrebbe rispondere? Sì. In collegamento con il telefonino del prefetto Antonio Musolino, prefetto di Genova, che ha fatto ristrutturare il suo bagno all'interno della prefettura per la somma di 100.000 euro circa. Modica somma. Modica, sì. E dice che lui non ne sapeva nulla, ma non risponde, non risponde. La vedo male. La vedo molto male, sì. La vedo molto male. Vedo la musica shampoo. Bagno turco 9.538 euro, 5.519 euro per il suo rivestimento, 8.577 euro per l'allestimento della vasca idromassaggio, quasi 12.000 euro per le pareti in marmo verde e bianco. Ma non risponde, non risponde, non risponde, non risponde, non c'è niente da fare, non risponde. Prefetto, risponda, la prego. So che lei non c'entra nulla. Niente. È caduta la linea. Stavo cercando se mai qualcuno fosse all'ascolto nei dintorni della prefettura di Genova, naturalmente un po' di ammorbidire la situazione. Non vogliamo mangiarlo, non vogliamo spellarlo vivo, non vogliamo scarnificarlo, vogliamo che ci spieghi qualche domanda. Sì, qualche domandina. Intanto, a proposito della Fiat, c'è uno scontro tra titani tra Aurelio Mancuso, che è il presidente dell'Arci Gay, se non sbaglio, leader storico della comunità omosessuale, e Giancarlo Lenner, deputato del PDL. Tu dici, cosa c'entra l'Arci Gay con la Fiat? Sì, un po' perché lo domando, Mancuso ha detto che i gay stanno con gli operai della Fiom. E con i colibrì no, però. I gay sono dalla parte degli operai della Fiat. Lenner ha risposto in questo modo. Aurelio Mancuso, gay di lotta e di governo, ha annunciato urbi e torbi che gli omosessuali sono dalla parte degli operai della Fiat, senza specificare da quale parte, davanti, di lato o di dietro. Terribile. Questa è la risposta di Lenner, leggermente omofoba. Così, leggermente omofoba. Sì, poteva risparmiarsela, dai. Va bene, 800240024, Marco, provincia di Milano, buonasera. Buonasera, Cruciani. Dica. Senta, una lamentela e anche uno sfogo. Sì. Ho sentito ancora da voi Scilipoti. Sì. Basta, non se ne può più. Ma è stato 3 minuti in collegamento, volevamo fargli dire se si allargava il gruppo, non ci ha detto niente. Cosa vuole che... 3 giorni, 3 minuti. Ma quando mai? Non lo chiamiamo da prima di Natale. Adesso proprio per reagire a quello che dice lei, lo chiamo. Adesso richiamo il telefonino Scilipoti. Aspetti un attimo. Così la faccio arrabbiare ancora di più. Io volevo fare una domanda. Ma Scilipoti, ma chi era costui? Era un deputato dell'Italia dei Valori. Appunto, ma chi cacchio lo conosceva sto Scilipoti? Ma era un patito dall'agopuntura, di altre cose, banche, di consumatori. Non capisco perché gli si debba dare spazio. Perché ha sorretto il governo, è uno dei responsabili. Allora bisogna dargli spazio a uno che fa il doppio salto mortale, che passa da una parte all'altra, e poi, tra l'altro, con quell'ironia ogni volta che parla, con quel prendere in giro le persone, tranquillo, con un pelo sullo stomaco incredibile. No, basta Cruciani, basta. Ho capito, però io volevo tirar fuori qualche notizia a Scilipoti, magari ci diceva che ne so. Cosa può dire uno? No, effettivamente lei... Ma uno come Scilipoti deve venire a sparare la neve qui vicino a casa mia quando nevica. Ma perché dovrebbe venire a sparare la neve? Io adesso voglio difendere. Cosemeno fa qualcosa di utile. Ma si sta occupando del paese in Parlamento, Marco. Si sta occupando del paese. Sì, insomma, è un parlamentare, si sta occupando del paese. Aspetta, ragazzi, siamo messi proprio male, veramente. Proprio male, ma male. Signor Scilipoti, vuole rispondere a questo ascoltatore che la tratta male. Ma non so di che cosa state parlando, non ho sentito niente. No, scusi, signor Scilipoti, questo ascoltatore dice che lei in realtà non ha niente da dire. Che non si sta occupando del paese ma solo degli affari suoi, che ha fatto questo passaggio di gruppo, ma insomma è roba vecchia. Scusi un attimo Scilipoti, Marco, è roba un po' vecchia il passaggio di Scilipoti. Solo perché bisogna sempre dare spazio a gente del genere, cioè, poverina, effettivamente era tanto che Scili non lo si sentiva tantissimo. Ma dico, basterebbe, scusi, Pronto? Può rispondere a questo cittadino, elettore, ascoltatore? Io non potete rispondere, basta cliccare sulla Camera dei Deputati e andare alla voce parlamentari e cercare l'onorevole Scilipò, sì, per rendersi conto dell'attività parlamentare che ha fatto, che anni e mezzo, a differenza di molti altri parlamentari che sono amici di questo signore che parla, metterlo a confronto e vedere che in 2 anni e mezzo quello che ha fatto il parlamentare Scilipodi è il ho capito. Per 4 volte quello che hanno fatto gli amici di questo signore che ma parla. Ma perché amici? Marco, quali sono i suoi amici? Scusi Marco, lei ha amici? Amici in Parlamento? Io assolutamente no. Ha capito Scilipodi, non ha nessun amico. È ancora peggio, se non ha amici in Parlamento parla tanto certo per parlare, perché ha la lingua in bocca e dice delle parole senza nessun senso e nessun significato. Scusi, però non è che perché è peggio, non ha nessun amico in Parlamento, non ha nessun amico in Parlamento, punto. Rispetti un po' un cittadino che la critica, un cittadino che la critica. Delle affermazioni così gratuite senza rendersi conto di quello che dice. Basterebbe andare al sito della Camera dei Deputati per rendersi conto che cosa fanno i parlamentari e chi sono i parlamentari. Chi sono stati i parlamentari più produttivi in questi 2 anni e mezzo di legislatura? Per favore, ma non scherziamo. Lei è venuto alla ribalta col suo bel salto triplo salto mortale. Ma intanto si informi di chi parla, cioè dire si renda conto chi è il parlamentare e che cosa ha fatto all'interno del Parlamento. Lei sa cosa ha fatto il parlamentare, si renda conto e poi dà dei giudizi. Ma con tutto allora non possibile. Parli a vanvera, ma clicchi sulla Camere dei Deputati, vada alla voce parlamentare e veda che cosa ha fatto l'onorevole Domenico. Non lo conosceva. Onorevole Scilipodi, lasci parlare un attimo, signor Marco. L'onorevole Domenico Scilipodi si fermi un attimo. Avere la responsabilità di utilizzare delle parole in un senso o nell'altro. Vabbè, può giudicare anche. Scusi, Scilipodi, signor Marco vorrebbe. Però si fermi un secondo. Marco, allora vada lei. Come vuole replicare a Scilipodi? Uno scontro pazzesco. Che il signor Scilipodi è salito alla ribalta grazie al suo salto. Ma lasci perdere perché non andare alla ribalta. Veda che cosa ho fatto come parlamentare. Ma lei ho fatto il mio lavoro da parlamentare o no? Si è informato sul parlamentare? Si è informato, Marco, si è informato o no? Scusi, la conosce la copuntura? Ha fatto il lavoro del parlamentare? L'acupuntura, le proposte di legge sulla copuntura le conosce, Marco? Ma quale proposte? Non soltanto le proposte di legge sulla copuntura, le 30 proposte di legge. Ho detto ne ho detta una. Che sono di interesse della nazione e dell'interesse dei cittadini italiani. Riconosce o no? Sa che l'onorevole Scilipodi ha fatto 140 interrogazioni parlamentari? 140, hanno risposto a tutto o no? Dico, ma si rende conto? Allora, prima di parlare, si informi, si renda conto almeno di quello che dice, delle parole che utilizza molte volte non hanno grande significato. Però, Scilipodi, se il signor Marco, scusi, Scilipodi, si fermi un attimo, un secondo. Allora, se ma non possiamo dire delle cose che non no, però, ma non sto dicendo niente. Si fermi un attimo, come si chiama lui, di andare, di cliccare. Vabbè, adesso andrà. Vabbè, d'accordo, però signor Scilipodi, se Marco dalla provincia di Milano non si è reso conto della sua attività di parlamentare, magari qualche motivo c'è, diciamo, non sarà stata particolarmente visibile. Il motivo c'è che è un disattento e un distratto e parla tanto per parlare e non si informa prima di intervenire in trasmissione, oppure telefona tanto per parlare e per farsi ascoltare da qualcuno. Vabbè, ma lei così, ma lei dà dell'ignorante al signor Marco. Più riflessivo. Vabbè. Ma ti pare che Parenzo, cosa vuole dire? A me non pare niente, forse parlerà qualcosa a chi... Parenzo, come vuoi rispondere? Ma onorevole Scili, ma dico, chi interviene deve sapere di che cosa sta parlando, non può parlare tanto... Scusi, può giudicare anche il suo passaggio dall'Italia dei Valori ai responsabili, scusi. Dico, chiunque alza un telefono e parla e dice le cretinate ma è un cittadino. Intanto si informi è un cittadino, parlamentari che cosa hanno fatto nell'interesse del paese e se hanno fatto effettivamente parlamentare o hanno fatto altro. Parenzo! Allora su questo che si deve parlare. Un attimo, Scilipodi, si fermi, lasci parlare Parenzo un attimo. Lasci parlare Parenzo. Ma è un cittadino, onorevole Scilipodi, avrà il diritto di non sapere che cosa ha fatto lei in un anno e mezzo di legislatura con la sua benedetta ogopuntura. O mi sbaglio? O è un dovere dei cittadini di telefonare alla Zanzara a sapere che Ma telefoni dove vuole, ma si informi prima di che cosa sta parlando, si documenti. Ma prima di si sono un parlamentare, chieda, si verifichi chi è il parlamentare. Ma scusi, la sta accusando di essere... ha lavorato nell'interesse degli italiani oppure no? Ho capito, ma... non può dire delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Ma la sta accusando di essere... In questa Italia siamo abituati a parlare senza capire il significato e a sparlare di tutti senza conoscere niente e nessuno. Vabbè, ma di che cosa stiamo parlando? Ho capito, il signor Marco sta criticando non la sua attività da parlamentare, sta criticando il fatto che lei è passato dall'Italia dei Valori al governo. Ma che punto. Significa è passato? Dove sono passato? Vabbè, è responsabile, lei è responsabile o no? Di che cosa sta parlando se non sa quello che dice? Ma chi, io o Marco? Ho preso una posizione all'interno del Parlamento e non motivata. E ho dato ho capito, ma lui le può contestare o no? Ma le può contestare? Cosa? Questo ascoltatore le può contestare queste motivazioni ma o no? Le può contestare, certo, ma dica delle cose sensate che me le può contestare. Beh, ho capito, Marco, ho capito, Scilipoti. Il signor Marco ha detto, a me mi dà fastidio questo qua che parla perché è passato dall'Italia dei Valori a sostenere che ha fortemente anti-Berlusconi. Mi dà fastidio, scusi, mi dà fastidio una persona che non fa una battaglia di bandiera o una battaglia di maglietta, ma fa la battaglia nell'interesse degli italiani. Ok, secondo quando lui non fa questa degli italiani non coincidono con gli interessi di maglietta, abbandona la maglietta o abbandona il partito dove sei e schieriti con gli italiani. Capisce di che cosa stiamo parlando oppure no? Ma Marco l'ha capito? Ti rende conto quello che sto dicendo oppure no? Marco l'ha capito lei o no? Ormai no. No, ma allora mi faccia dire due cose poi. Dica. Io non solo ce l'ho con Scilipoti. Con chi ce l'ha? Perché secondo me, indipendentemente da destra, sinistra, non mi interessa niente, ma secondo me uno che fa un triplo salto mortale del genere da qualunque ma parte. Ma quale triplo? Uno l'ha fatto di salto mortale al massimo, siamo al circo qua, abbiamo fatto triplo salto mortale. Da qualunque parte lo faccia, da destra, sinistra, destra, eccetera, eccetera. Per me è totalmente incoerente. Lo lasci che gli italiani sono al di sopra degli interessi di Parigi. Dai, con questi interessi degli italiani un attimo. Ma lo faccia finire, Scilipoti, lo faccia finire un attimo, lo faccia finire. Lo faccia finire, Marco, dica. Luciani. Io ce l'ho un po' anche con lei. Perché ce l'ha con me? Perché secondo me le dà troppo spazio questi personaggi. A me è simpatico Scilipoti, che devo fare? È simpatico, ma a me e credo anche a molti altri. No. E vabbè, ho capito, non è però che lei dice, vabbè, se non ti piace cambi canale. Cambi canale oppure aspetti che Scilipoti se ne va, mica ha occupato Radio 24, abbia pazienza, cioè. Ma no, però voglio dire, il messaggio che passa, secondo me. Che messaggio passa? Ma è un messaggio sbagliato. Ma io non devo far passare nessun messaggio, a me. Ma ho capito, ma questo personaggio ripeto, secondo il mio punto di vista. Sì. Chi era costui? Non lo conosceva nessuno. Vabbè, questo devo dire che è anche un problema mio, perché è salito la ribalta grazie a questo. Succede a molte persone. Prima della fiducia al governo nessuno conosceva il signor Scilipoti, adesso lo conoscono un po' di più. Secondo me ci sono tante altre bravissime persone. Sicuramente ci sono tante altre. Perché Scilipoti non è una brava persona? Ma no, io non dico che non è bravo o non brava. Secondo me non ha diritto. Cioè, come diritto? Non è che non ha diritto. È una persona, secondo me, che è completamente incoerente con il suo percorso politico. Va bene, questo già l'ha detto lei. E quindi più di... Cioè, secondo me non più di tanto non bisogna dargli... Però non mi faccio dare ragione a Scilipoti, lei pure si incarta. Insomma, l'unica contestazione che fa Scilipoti è sul fatto che è passato dall'Italia dei Valori al gruppo dei responsabili che appoggia il governo, punto. Va bene, è corretto, però lei si ferma qui. D'accordo, Marco, grazie. 19:47, Scilipoti, senta cosa ha detto Donati ieri a proposito della famosa telefonata di cui lei parlò, in cui Donati avrebbe detto di mettersi d'accordo con il Partito Democratico e con Repubblica un po' per sputtanarla. Questa era la sostanza della sua rivelazione. Donati smentisce su tutta la linea, via. Lei ha mai più parlato con Scilipoti dopo? No, e penso che non lo farò per il resto della mia vita. Essere parlamentari non significa essere persone che meritano il rispetto di tutti. Il mio rispetto Scilipoti lo ha perso per sempre, poi non pretendo di avere io il suo, ma lui non ha il mio. E questo qua era Donati che dice non ci parlerò mai più, non ho più rispetto per Scilipoti, ma la telefonata, datemi la telefonata, via. Io non ho mai minacciato nessuno nella mia vita, ma poi le pare una cosa seria e credibile che studiavo una strategia con Repubblica e con il PD per delegittimare Scilipoti. Scilipoti, poveretto, si è delegittimato da solo. C'è un altro poveretto, si è delegittimato da solo, c'è qualcos'altro? Un attimo, Scilipoti, un secondo, mi faccia far ascoltare. Tabulati, ma cosa fanno? Aspetta, pare, sentiamo ancora Donati, un attimo. Razzi e Scilipoti fino a 2 settimane prima erano talora dei problemi per me perché in aula si esprimevano con interventi troppo coloriti nell'attaccare il governo. Guarda caso, in due settimane si sono determinate il contagio. Allora, ma questa telefonata Donati ammette che c'è stata, però dice: io non ho affatto minacciato Scilipoti di rovinarlo con una campagna denigratoria insieme al Partito Democratico e alla Repubblica. Insomma, cerchiamo di risolvere questa questione, Scilipoti. Ma guardi, io l'unica cosa che voglio dire è questo. Intanto è un bugiardo, perché lui ha fatto la telefonata e ha parlato e si è espresso in quei termini che ho detto. Se lui avesse avuto qualcosa da contestarmi, me la doveva contestare immediatamente. Fra le altre cose ci sono i tabulati, e come chiedono di utilizzare i tabulati nei confronti di altri personaggi, che vengano presi i tabulati per vedere se effettivamente quello che ho detto corrisponde alla realtà o meno. No, vabbè, i tabulati questo indicano. Scusi un attimo, Scilipoti, i tabulati indicano che la telefonata c'è stata, non il contenuto. Dico, sicuramente, siccome i nostri telefonini sono sotto controllo, sicuramente saranno anche sotto controllo, erano sotto controllo quella giornata e potranno sentire anche la telefonata. Cioè c'è stata una minaccia, Donati l'ha minacciata. Ora, per quanto riguarda Razzi e Scilipoti, mi dispiace. Beh, un attimo, mi risponde o no? Ma allora denunci, scusi, ma scusi, c'è stata una minaccia o no? Lei conferma che c'è stata una minaccia? Per quanto riguarda Razzi e Scilipoti, che vogliono degli interventi coloriti, mi dispiace perché Razzi ha fatto degli interventi, ma fa sempre interventi moderati, molto equilibrati, e molto pochi ne ha fatti in aula, perciò dice anche una bugia su questo. Vabbè. Mi dispiace che lui parli questo linguaggio e francamente io non ho niente, niente da dirgli, ma ho soltanto da dirgli di dare conto alla propria coscienza. Io sono un cristiano cattolico, lui è un ateo a 360 gradi. Vabbè. Questo non c'entra niente, ma già significa modo di parlare e sul modo di confrontarci con gli altri abbiamo due indicazioni e due indirizzi completamente diversi. Ma che ne sa che è ateo poi? Perché lo sa, lo hanno sempre detto. Me l'ha detto. Ma che vuol dire? Uno è ateo, non è che è ateo, lei è cristiano. Ateo significa che è uno che è senza religione, perciò uno che è senza religione potrebbe fare e potrebbe dire la qualsiasi cosa. Ma che vuol dire? Ho capito. È una cosa pazzesca. anche Parenzo è ateo però. Ma c'è, ma fa Parenzo, poveretto, io che posso farci se è ateo? Ma poveretto tu, ma poveretto lei! Il signore gli mette un poco di sale in zucca e conseguenza, ma visto che lui la testa non ce l'ha, perché dice sempre che ha mal di testa. Ma che il signore la dica lei, amico mio, lasciamo stare il signore, parliamo di politica, su. Ma quale, guardi, il signore lo dovrebbe aiutare molto, lo dovrebbe tenere per mano, perché lei molto probabilmente ha qualche difficoltà enorme. Ma che... però dico, vai a fare, scusa, Parenzo. Ma che difficoltà, ti rendi conto questo? Ma quale difficoltà? Capisco quello che lei dice, perché io ho difficoltà ad ascoltarlo per il telefono, poi parla pure con grande difficoltà, perché si mangia qualche parola e conseguenzialmente non riesco a capire. Ma quale parola? Per favore, parla lentamente, più chiaro. Parla più forte, lentamente. Può anche darsi che io sia in condizione di poterle fare. Allora, Parenzo, parla. Quando lentamente. Ha ritrovato il cervello, ci faccio una telefonata. Va? Parli lentamente. Quando ha trovato il cervello, quando parla non riesco a capirlo perché si mangia pure qualche. Ha messo già un annuncio su Facebook. Ma quale cervello di Scilipoti? Un attimo, però, Scilipoti, se lo ascolta. Alla porta l'annuncio. Quando lo mette alla porta e mette un bell'annuncio, sono senza testa, non è che ho mal di testa, ma sono senza testa. Scusi un attimo, Scilipoti, però ha detto che vuole ascoltare Parenzo, ascolti un attimo, parla piano, Parenzo. Ma che devo ascoltare, Parenzo, per favore, mi faccia ascoltare qualcosa di più interessante. Un attimo. Per favore, mi faccia ascoltare qualcosa di più interessante. No, Parenzo. Scilipoti, si taccia un attimo, si taccia. Parenzo, Paranza, non so come si chiama lui. Parenzo. Mi faccia ascoltare qualcuno che mi vuole fare qualche domanda interessante, intelligente, che mi vuole chiedere qualcosa sul futuro dei nostri figli, sul futuro del nostro paese. No, che parla di politica nazionale, internazionale, ma Parenzo di che cosa deve parlare? Per favore. Uno potrebbe chiedere Parenzo, la Paranza è, non Parenzo, la Paranza. Allora, un momento, Per favore, non lo faccia parlare, mi faccia la cortesia. Un attimo solo, Scilipoti. Ma non lo faccia parlare. Un attimo. Lei è una persona così intelligente, così brava. Dai, per favore, non faccia parlare Paranzo, come si chiama lui, dai. Parliamo di cose serie, non è posso parlare con lui di cretinate, perché la gente che ci ascolta si annoia. Parliamo, fatemi delle domande interessanti. Cosa pensa del futuro? Ma per favore, ma non Parenzo non ha mai fatto nella vita sua una domanda interessante. No, favore, mi faccia lei le domande interessanti, perché lei è una persona preparata e una persona che sa proprio a condurre bene. Scusi, allora faccio io una domanda, Cilipoti. Allora, si dice che il signor... Ma non una domanda difficile come li fa lei, faccio una domanda... Facile, quelle che capiscono tutti. Bene, allora se dica... Allora, quelle che proprio, assolutamente, è sbagliata la... No, questa no, è troppo semplice, troppo banale. Un'altra, ho capito, troppo banale. Ma è vero che il signor Barbareschi, il signor Latteri potrebbero passare al gruppo dei responsabili? Facile questa. Ma guardi, questo non lo so, questo dovrebbe chiedere. Vabbè, ma mi faccio, mi dica qualcosa, Cilipoti. No, magari lo dovrebbe chiedere a loro, perché veramente non lo so, dico, né di Latteri né di... Ma lei che ruolo avrai nel movimento di responsabilità nazionale? Nessuno. Quello di ruolo che ho sempre avuto, di essere parlamentare della Repubblica Italiana. E vabbè, questo abbiamo capito, ma con che ruolo? Cioè, nei vari dipartimenti che andate a formare, no? Lei di che settore si occuperà? Ma non abbiamo, ma lei ha delle notizie che io non ho. Ma l'ha detto lei prima. Me l'ha detto lei prima. Ma è vero che aveva avuto qualche denuncia dall'ex mio capogruppo Donati, che oltre a dire le bugie nei confronti di Cilipoti dice anche le bugie. È un bugiardo, Ma chi è che senza... lei ha detto che l'Italia dei Valori è senza valori cristiani. Che vuol dire? Ma che senza valori cristiani? Perché io l'ho detto poco fa, siccome fra le altre cose c'è uno che guida l'Italia dei Valori che è pure ateo, cioè vuol dire grandi valori cristiani non ne avrà. Capito, Parenzo? Ma cosa dice? Ma qui per favore, non chieda a Parenzo. Parenzo non capisce niente. Aspetta, per favore, non faccia questo errore. Cervello, Non chieda niente a Parenzo. Lo lasci stare in silenzio per 10 minuti. Quando finisce l'intervista con me, poi lo chiamerà e lo farà intervenire. Ma non lo faccia parlare. Per favore. Perché già lui ha mal di testa. Hanno trovato Cilipoti. Ho sbagliato, mi chiedo lei. Un attimo. Non ha mal di testa, non ha la testa. Non ha la testa. Non ha la testa. Che cosa vuole che gli dica? Però le dico che questa cosa qua l'ha detta anche il mago Telma, che non ha la testa, Parenzo. Ma perché parente? Sono parenti, saranno cugini primi. No, ma ha detto... Saranno cugini primi, o addirittura forse fratellastri. Scusi, Cilipoti, quando viene a ritirare ancora il suo cervello? Ancora, per favore, ma mi faccia la cortesia. Non deve parlare, lei deve stare zitto, per favore, perché mortifica la trasmissione. Se ne deve stare zitto, lasci parlare persone intelligenti. Scusi, no, non può parlare lei. Io mi trovo anche in difficoltà, Parenzo è amico mio. Io sono sempre a sua completa disposizione, quando vuole mi può chiamare. Okay, ma lei non mi dice niente, però. Non mi dice niente su quello che so, glielo dico. Però ma non mi dice niente. Ma non sa niente. Io non è che posso inventare come inventa Donati. Io non posso dire le bugie come dice qualcuno, dico in qualche trasmissione. Ma con chi è rimasto in contatto? Certo, Di Pietro, che ogni tanto si inventa qualcosa. Ma col vice direttore del Corriere della Sera invece che c'ha su Battista? Perché si è arrabbiato con il signor Battista? Si chiama Battista, poi come si chiama Battista? Non corrispondono alla realtà, cioè dire, lui ha affermato la sua non conoscenza del regolamento parlamentare. Cioè, che ha fatto? Della Camera dei Deputati, un parlamentare può intervenire in un minuto. Io in un minuto ho cercato di dire il massimo e poi ho chiesto al Presidente della Camera di allegare gli atti il mio intervento, che era di 4 pagine. E invece che ha detto Battista? Che lui andasse a leggerlo per trovare tutte le motivazioni che mi hanno portato a tenere una posizione diversa da quella del partito che io rappresentavo prima. Bastava fare questa perché cosa, lui si è concentrato sull'agopuntura. Il fatto che lui abbia preso e abbia detto delle altre cose ha fatto capire o che era in malafede o che effettivamente non conosce il regolamento parlamentare, e questo è gravissimo per uno che fa il vice direttore di un giornale come il Corriere della Sera. Vabbè, ma volete fare pace con Parenzo o no? No, niente, non c'è... Io per carità, perché non è che siamo bisticciati, ho fatto una riflessione, poi io non sono contro nessuno, io Cilipoti, aspetti che ho grande amore per tutti, si figuri, rispetto anche Parenzio. No, Cilipoti, scusi, una cosa seria, ho appena parlato la testa e fra le altre un attimo cose, Cilipoti, un attimo quello che dice, però pazienza. No, Cilipoti, ho appena parlato con Lasciarelli, continua, per favore, ma perché non lo lasci? Ma perché per non fare una puntata zitto, di chi l'ha visto sul suo cervello, metta la museruola, per favore, per qualche minuto, non lo faccia abbagliare. Vabbè, pubblicità, grazie Cilipoti, grazie. Voglio restare tutto il giorno in una vasca. Il prefetto di Genova, voglio il telefonino, chiamatelo ancora. Paranza, Paronzo, Parinzo, dove sei? La frittura di Paranza, dalla 7. Ma secondo Cilipoti, se uno non è un cristiano, che succede? Non può parlare? No, ma lì c'è un problema, secondo me, di sinapsi. Adesso ho chiamato davvero Federica Sciarelli per sapere se... Ottimo. Almeno quello che abbiamo noi, magari l'ha cambiato... No. La stamattina, però. No, perché squilla, vedi. E vabbè, che c'entra? E l'aveva dato all'idraulico, forse. O al piastrellista. Forse alla moglie. Pronto? Non mi fare... Non mi ingannare. Niente. Gianni? Non risponde, non risponde, non c'è niente da fare. Strano, però dovrebbe risponderti, scusa. Perfetto, dici. Cioè, è solo 24 ore, poi. Ma no, ma non lo sa lui che è solo 24 ore. Non lo sa, non lo sa, non è lo sa. È peggio ancora, perché squilla e non risponde, peggio ancora. Sì, però mi sa che noi quando chiamiamo dal centralino c'è il numero privato, non appare il numero, forse... Forse pensa che sia Maroni. No, magari non è sicuro di chi sta chiamando, i giornalisti lo stanno tempestando, vedi, non c'è niente da fare, bisogna chiamare in un altro modo, bisogna trovare un altro metodo. Va bene, 800 24 00 24, questa è inconfondibilmente la Zanzara, avete sentito uno scontro titanico tra David Parenzo e Domenico Scilipoti. Mi devo Domenico detto Mimmo. Ma devo essere preoccupato per il fatto che Scilipoti dice chiaramente in maniera ironica che io faccio domande intelligenti. Che... No, stavo per dirti proprio questo. Questa è una cosa molto pericolosa. Parli solo lei, lei fa domande. Michele da Milano, buonasera. Dottor Crociani, buonasera. Dica, che sta facendo? C'è la bocca buonasera a lei, buonasera a Parenzo e buonasera a tutti i radioascoltatori. Sì, va bene. Allora, ha la bocca impastata, che c'ha? Sta mangiando, che sta facendo? Io no, mi sono spostato, cioè, i bambini piccoli in altra camera, mi sono spostato. Sì, prego. Allora, senta, io volevo essere molto brevi, giusto per far intervenire anche gli altri. Allora, volevo intervenire per quanto riguarda il legittimo impedimento. Sì. Mi sta seguendo? La sto seguendo, allora, la sto seguendo. Mi può spiegare come mai la legge, visto che è uguale per tutti, dovrebbe essere diversa per il nostro caro Presidente del Consiglio? Guardi Michele, è la domanda naturalmente che molti si pongono, è una delle questioni in ballo. Non è che sulle questioni che riguardano i processi ai politici, i parlamentari hanno già una legislazione diversa rispetto ai cittadini comuni. Qui si vuole proteggere ulteriormente il Presidente del Consiglio, non è che si vogliono annullare i processi. Poi uno può essere d'accordo dicendo che è uno scandalo, non è la legge, non è uguale per tutti, quello che vuole lei. Però insomma, non è che non ci sia una ragione di fondo nel distinguere la posizione del Presidente del Consiglio e in generale dei politici rispetto a quella dei comuni cittadini. La Costituzione del 48 aveva già previsto comunque una situazione diversa. Nell'esercizio delle loro sacre funzioni. Sì, ma comunque aveva. Non per reati compiuti ex ante. No, ma non stare a specificare. La Costituzione del 48, quella dei padri fondatori più volte richiamata, aveva già creato due categorie di cittadini. Sì. I parlamentari più protetti e i cittadini meno protetti. Perché si arrivava punto. Dal fascismo e bisognava tutelare... Ma comunque è andata avanti fino al 92. La libertà del parlamentare. Sì, ho capito. Io non sto facendo... Non voglio difendere il legittimo impedimento. A me non me ne frega nulla del legittimo impedimento. No, certo, possono pure processare Berlusconi domani mattina. Non mi interessa. Sto dicendo, quando, come l'ascoltatore Michele da Milano dice, la legge non è uguale per tutti, io rispondo dicendo che vero. Già che la legge non è, comunque non è uguale per vero, tutti. Vero, ma con questa postilla in più. Sì, ma lascia perdere la postilla che non c'entra niente. È fondamentale. Ma non però... è fondamentale, perché comunque quello che vuole dire Michele è che il Presidente del Consiglio non ha la stessa posizione di un comune cittadino. Io rispondo, bella scoperta, sin dal 48 i politici avevano una situazione, continuano in parte ad avere una situazione diversa rispetto ai cittadini semplici. Poi uno può dire, me ne fotto, non ci vuole nessuna autorizzazione nemmeno per intercettazione, per gli arresti, no. Come adesso, e invece devono essere uguali a tutti i cittadini. Posizione legittima, però rispondo, nella Costituzione del 48, più volte esaltata dagli stessi dettatori di Berlusconi, si creavano delle situazioni diverse per i parlamentari e per i comuni cittadini. Cioè non è una cosa folle, scandalosa, perversa, malata. Folle la tutela ad personam, non quella sì. Per... Ma la tutela ad persona, ma non è una. Sì, d'accordo, ma la tutela ad persona, ma poi è una valutazione politica che condivido. Cioè, il centrodestra fa una norma per tutelare Berlusconi. Esatto. Dopodiché, siccome non può tutelare Berlusconi, deve tutelare la funzione del Presidente del Consiglio. Allora, tu devi dire, io sono contrario alla tutela del Presidente del Consiglio. O dici questo, ma non puoi sostenere che ad personam. Cioè, devi sostenere, sono contrario alla tutela del Presidente del Consiglio. E allora, questo è un altro ragionamento. Certamente, ma in questo caso si parla di questo perché il caso è Berlusconi. Ma ho capito, ma non c'entra niente. Allora, sei favorevole o contrario alla tutela del Presidente del Consiglio, dei ministri, del Presidente della Repubblica? Favorevole o contrario? Se sei contrario, assolutamente contrario per i reati che sono stati compiuti. Ma lascia perdere le specifiche, non c'entra niente le specifiche. È certo che c'entrano, perché se uno, voglio dire, nell'esercizio delle sue funzioni. Ma per forza deve coprire il prima. Ma necessariamente deve coprire il prima, per forza. Se c'è un processo che un qualcosa che viene a galla durante gli anni della tua presidenza, di 20 anni prima, di 15 anni prima, di 10 anni prima, la legge serve a proteggere la persona per gli anni di quel mandato. Ma è normale che sia così, no? Cioè, mica tanto, perché nella Costituzione invece era prevista una tutela per la figura. Ma non è così, ma è normale. Se uno vuole, io non sono a favore di questa, attenzione, io non dico che sono a favore, io sto dicendo che però se la prevedi deve essere per forza quello che è successo prima, non per quello che succede dura. È sbagliato prevederla così, è che stando oggi in questo ginepraio, forse è meglio questa cosa qui, cioè visto tutto questo casino, forse è meglio questo scudo, almeno si blocca e si torna a parlare di giustizia, di riforma della giustizia con più serenità, poi dopo però che si processi, non è che si ancora non lo si ripropone un'altra volta, perché sennò diventa veramente una cosa. La seconda volta, la terza volta non è reiterabile, se uno cambia di funzione è reiterabile, qui si può discutere naturalmente. Qui adesso siamo a discutere del fatto che Bondi dice che è stato un colpo alla democrazia. Questo è ridicolo. E mentre gli avvocati di Berlusconi, nonché parlamentari, dice non hanno capito bene. I giudici della Consulta non hanno capito. Ma cos'è che non hanno capito? Hanno questa è una valutazione della difesa di Berlusconi davanti alla Corte Costituzionale. Non hanno capito bene. Cosa vuol dire non hanno capito bene? Ma come Ciripoti, anche Ciripoti non ha capito bene. Cosa vuol dire? Non hanno capito bene. Mi pare che la frase più rilevante non sia tanto questa quanto quella di Bondi, rovesciato l'ordine democratico. I commenti sono tutti sconfusionati. Nel centro c'è veramente la dichiarazione della libertà. Il povero Berlusconi dice no, forse va bene così. Bondi colpo alla democrazia. Ghedini dice va bene, ma non hanno capito bene. Ma se le metti insieme queste dichiarazioni, c'è un delirio, c'è un'ambulanza globale di tutto. Andiamo ai titoli della 7. Legittimo impedimento e bocciatura parziale, molti paletti alla legge scudo dai processi per il presidente Berlusconi. E la domanda politica che emerge adesso è una: elezioni dietro l'angolo? Ma l'impianto della legge è stato rispettato, dice Alfano. Per il PD invece è proprio l'intero impianto è venuto meno. Insomma, bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. La politica mai così incerta e divisa. Ma ora in sostanza che succede? Sono 3 i processi pendenti a Milano su Silvio Berlusconi, tutti a rischio di prescrizione. I giudici sono stati trasferiti, si ricomincia da zero. Vedremo. E nel giorno del legittimo impedimento e della Fiat il Partito Democratico si divide, la linea del segretario Bersani passa ma senza il voto dei veltroniani, arrivano anche dimissioni eccellenti ma poi rientrano. Occhi puntati anche oggi su Torino, tra 2 ore via al referendum sull'accordo Marchionne, quasi scontata la vittoria dei sì, ma le tensioni polemiche sono fortissime, la CGIL non vogliono fabbriche, vogliono caserme. E nonostante il coprifuoco continuano i violenti scontri nel centro di Tunisi. Nuove manifestazioni, lacrimogeni sulla folla e la rivolta del pane finisce nuovamente nel sangue. Almeno 2 le vittime delle ultime ore. Paranza. Parenzio, la paranza non Parenzio, la paranza. Questa doveva aspettartela, caro Parenzo. Complimenti a tutto il gruppo della Zanzara lì a Milano, perché in tempo reale mixare l'onorevole, come si chiama, Scili, con questa musichetta qui, bravissimo, hai una squadra fortissimi, siamo una squadra fortissimi. Chi è che lo diceva? Sì, siamo una squadra fortissimi, quello che parla come Scili Pop, il cantante che parla Checco. Siamo una squadra fortissima, era Checco Zalone, se non sbaglio. Sì. 29 800 24 00 24, andiamo in provincia di Frosinone. Antonio, come qua, buonasera, dica. Cruciani e Parenzo, vi faccio i miei complimenti, mi avete fatto cambiare gusti in fatto di radio, io ascolto ormai da un anno Radio 24 e particolarmente in questo orario. Bene, grazie. Volevo farvi i complimenti, volevo anche lanciare un piccolo, come dire, se dovessi essere un pubblicitario direi Radio 24, bella radio, perché è veramente una bella radio, una talk radio come piace a me. Volevo fare un piccolissimo appunto a Parenzo, ma senza cattiveria, solamente per dire che non è detto che se Signorini fa gossip non sia così equilibrato e intelligente quanto, certo, e forse un po' di più di qualche politico da dover parlare di politica, ma questo, certo, è un piccolo appunto e Parenzo mi perdonerà. Ma è vero, volevo, ma hai ragione. Volevo dire una cosa, gli operai della Fiat stanno tra oggi e domani dovranno votare questo referendum. Sì. A me dispiace molto che la CGIL e diciamo in particolare la FIOM sia così ferma sulle sue posizioni e non capiscono che ormai il mondo del lavoro è cambiato, ormai è diventato un mercato globale, ormai tante industrie hanno spostato i propri stabilimenti all'estero. Perché gli costa di meno, giustamente, diciamo pure che, come dire, il sistema di tassazione italiana è molto alto, il costo di un operaio in regola è comunque alto, quindi il sacrificio che fa la Fiat anche cambiando il contratto e sicuramente qualcosa andrà a vantaggio dei lavoratori, qualcosa contro, io non, come dire, non direi no su tutto e non sarei così, non metterei veti di questo tipo, perché stanno comunque parlando con il più grande industriale dell'automobile italiano e comunque una persona che sta investendo, dovrà investire, si spera, se così ha promesso, tanti soldi per poter comunque far rimanere le fabbriche in Italia e con essi e con le fabbriche anche i lavoratori e con le loro famiglie, quindi magari ecco solo un piccolo pensiero della FIOM che lo rivolge, e la CGIL che lo rivolgessero alle famiglie dei lavoratori che da oggi a domani potrebbero essere tante famiglie senza lavoro. Ho capito. Bene, grazie. Attilio da Monza, buonasera. Attilio? Pronto? Non risponde. Alessandro dalla provincia di Pavia. Alessandro? Sì, buonasera. So che è ora di cena, però mi risponda. Ciao. Niente. Viva Cinipoti, comunque, vabbè. Sempre viva Cinipoti, sempre, eh? sempre viva. Ma visto che c'è l'onorevole Cinipoti. No, non c'è più, è andato via comunque. Vabbè, spero che ci stia ascoltando ancora. Vorrei tanto che facesse una bella interrogazione parlamentare, la 141esima. Su che cosa? Poi anche questa cosa sulle interrogazioni parlamentari, mi scusi se la interrompo, è assurda. Non è che il lavoro di un parlamentare, l'efficacia di un lavoro di un parlamentare si possa valutare dal numero delle interrogazioni parlamentari. È una cosa assurda, ridicola. Cioè, comunque. È vero. Ma però, visto che c'è, e speriamo che sia all'ascolto, vorrei fare questo intervento, chiedere chi era quel cretino, uomo dell'istituzione, che sulla statale che da Brunico andava a Bressanone, se l'è fatta tutta in contromano, facendo rischiare a tanta gente qualche incidente con su delle famiglie. Guardi, io che ne so, Alessandro. Ma Cinipoti potrebbe. Viva Cinipoti. Scusi un attimo, ma io che ne so chi era quel politico che andava contromano nella statale tra Brunico e non so. Scorta, ma insomma, non è difficile volendo sapere. Beh, Alessandro, se lei lo sa, ce lo dica, non ci tenga sulle spine così. Magari lo sapessi. Ma non lo io so. Non ho macchine carenzate per andare fuori strada, più che altro quello sì. Vabbè, ma perché ci racconta questa cosa, scusi? Ma perché, visto che si parla di questi bagni turchi da 100.000 euro, insomma, uomini dell'istituzione che spendono e spandono, e comunque hanno un comportamento poco dignitoso nei confronti del popolo, che loro, insomma, farsi 40 km in contromano sulla statale, questo lo fanno normalmente questa gente. Beh, insomma, 40 km in contromano su una statale, solo un pazzo lo può fare, per cui Alessandro, adesso lei sta scherzando, ma non credo che qualcuno abbia fatto 40 km in contromano su una statale in montagna, insomma. Abbia pazienza. La ringrazio. Rodolfo da Milano, buonasera. Rodolfo da Milano, buonasera. Franco da Firenze. Sì, buonasera. Eccoci, Cruciani. Qui. L'intervento lo doveva fare lei, Cruciani. Ci voleva l'ambulanza, ci voleva l'ambulanza. L'ambulanza, mi è sfuggita l'ambulanza, è vero, mi è sfuggita. Il CIM, veramente, mi creda. CIM è il centro di igiene mentale, insomma. Tanto esatto, sì, il centro di igiene mentale. Per un attimo pensavo che fosse uno sketch di suo... Cioè, pensavo a un'imitazione di Cinipoti, no, era il vero Cinipoti. Pensavo che fosse un bello sketch, insomma, perché veramente c'è da toccarsi, insomma, è una cosa veramente allucinante. Io non voglio entrare in merito a discussioni, cioè, veramente questa persona ha dimostrato di essere una persona veramente con dei grossi, seri problemi. Non è questione di sinapsi, come diceva, le sinapsi, sì, bisogna avere neuroni per avere delle sinapsi. Insomma. Vabbè, adesso non mi sia pesante con l'amico Scilipoti. Sì, ma per la mia non sono pesante, guarda, ha fatto tutto da solo, cioè non è che c'è bisogno che il mio intervento abbia, cioè, per l'amor di Dio, insomma, è veramente una cosa oscena, e ha fatto bene, ma lo chiami più spesso, che quasi nel viaggio così è bello sentire, piuttosto che insomma i soliti interventi. Infatti non voglio parlare di niente, né di legittimo impedimento. Io prima ho sentito su un'altra radio che radio ha ascoltato? Franco, che radio ascoltava? Io ho ascoltato prima Radio Capital. A che ora erano le 6:30? Le 6:30, ma lei alle 6:30 non era con la Zanzara, è diretta, è in collegamento? Guardi, alle 6:30 sì. No, ma io sono spesso in macchina perché a quest'ora torno. Appunto, ma non faccio questi errori. Ascolto sempre la Zanzara. Meno male. Ma ascolto anche altre radio, spesso, volentieri, ascolto alle 7 cosa dice anche, come si chiama, il direttore di Radio Capital. Zucconi, sì. Zucconi, bravissimo. E ho sentito a caldo l'intervento che ha fatto Bondi, poi il diktat, proprio altro che PC, insomma, una volta si faceva così nel PC, no? E il diktat è retrofronte, subito, immediatamente, tutti il bicchiere mezzo pieno, forse più che mezzo vuoto, quindi non mi interessa proprio parlare di niente. Vabbè. Ma veramente spettacolare, incredibile, veramente, guardi, non c'è... neanche il miglior Parenzo poteva. Però la cosa migliore è stato l'intervento sui cristiani, perché lui è un cristiano mentre Donati è un ateo e dunque sicuramente sbaglia. Traffico. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Eccoci qui, 20:19, 800 24 00 24. C'è stata una litigata fortissima tra un battibecco a Firenze durante la presentazione del calendario di Toscana, di cui abbiamo parlato ieri sera, quello che raffigura il triangolo, com'era? Triangolo pubblico. Sì, triangolo pubblico, mi pare. Triangolo pubblico, sì. Tra Vittorio Sgarbi e un gruppo di ragazze dell'associazione Frida, che contestavano naturalmente il calendario, la mercificazione del corpo della donna, eccetera, eccetera. E naturalmente Sgarbi non si è fatto mancare l'occasione di entrare in polemica con queste signore. Andiamo a Bruno da Bologna. Buonasera. Buonasera. Dica. Niente, una volta appurato che non ero un imitatore, quello che parlava prima, no, ed era proprio Scilipoti, io credo che o sia malato ultimamente oppure bisogna veramente cambiare la legge elettorale, insomma questa gente qui non può andare là. Bisogna... No, ma rispettiamolo. bisogna tenerle a casa. Ma magari, guardi, secondo me non è questione di legge elettorale, Scilipoti magari potrebbe essere eletto con le preferenze, non è mica detto il contrario. Sì, per carità, però per cui, insomma, non è che chi viene eletto con le preferenze necessariamente è più degno più rispetto... di uno, certo. Cioè, ma vede Cruciani, il dramma che non ha preso preferenze, il dramma che l'ha messo lì di Pietro, cioè, cosa pensava quel giorno? Cioè, mi chiedo, o è diventato matto ultimamente, si è malato, si ripoti, ma se era già così quando l'hanno messo là 2 anni fa? Cioè, guardi, no, non ho idea, io non lo conoscevo prima, forse anch'io, non lo conosceva bene nemmeno Di Pietro, forse. Forse non si conosceva neanche Scilipoti, forse. Ah, tu dici che Scilipoti non conosceva non bene conosceva se stesso. Non conosceva neanche se stesso, non si considerava neanche fino a poco tempo fa, forse. Sì, probabilmente. Forse. Ecco, o si è ammalato oppure ha avuto... Malato. Ha dato una svolta alla sua vita. Malato, non credo, anche perché è attentissimo a queste cose, con la comuntura, eccetera, eccetera, per carità. Bruno, la ringrazio. Collegamento speciale con Firenze, Marina Ripa di Meana, buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Come sta? Che sta facendo? È andata alla presentazione di questo calendario? Sì, sono andata proprio in questo, adesso sto tornando a Roma, sono in macchina. Sì, senta, ma che cosa è successo con Sgarbi che ha litigato? Che è successo? Ma è stato un pomeriggio molto divertente, perché ci sono state delle sciurette femministe che hanno invocato all'orrore, allo scandalo, Sgarbi, che ha fatto un discorso molto simpatico e anche molto alto, è stato accusato invece da queste sciurette femministe femministe che molto patetiche, diciamo, perché però è stato molto divertente, diciamo. Ma queste qua cosa Vittorio, come al solito, poi si arrabbia e trascende un po', però il discorso è stato molto molto simpatico. Senta, ma che contestavano queste che lei chiama sciurette? Contestavano che la Bernarda, la Patonza, il pub, come lo vuole chiamare, il triangolo pubblico, ha detto ieri Toscani, era uno scandalo, perché quello era da loro, e che non bisognava inneggiare a questo che era messo lì in bella vista, la mercificazione del corpo della donna, sì, ecco, tutta questa roba. E lei non ha detto niente? No, io come no, ho detto che ci sono delle, c'è qualcosa oggi di, che siamo sottoposti a una continua volgarità, che la volgarità non è un pub, da dove ho citato anche Courbet, con la nascita del mondo, no, la nascita dell'homme du monde. Sì. Ho detto che non è qualcosa di molto bello, di molto puro, e molto poetico, perché da lì nasce la vita, nasce il mondo, e cioè, oggi c'è qualcosa, che la pornografia è qualcosa di siamo subissati dalla mattina alla sera con messaggi volgarissimi, che quello non è un messaggio volgare, no, certo. Assolutamente, sì, la purezza, la nascita del mondo, certo, ma come sono d'accordo con lei? Non c'è da scandalizzarsi, e che siamo sobbissati da messaggi volgarissimi. No, ho capito, senta un attimo che Parenzo le vuole dire una cosa, che devi dire, Parenzo? No, una domanda, signora Riba di Meana, che è una persona che stimo moltissimo, io ricordo un suo manifesto splendido che ha accompagnato... Aspetti, signora Parenzo, dica. No, il suo manifesto, io ho 34 anni, il suo manifesto ha accompagnato la mia giovinezza, ho passato delle serate meravigliose guardando quel manifesto. Serate, addirittura serate è passato a discutere con amici del valore della nascita del mondo, certamente anche tu l'hai fatto forse in passato. Era un messaggio che soprattutto ce l'aveva con quelli che fabbricavano pellicce, perché dicevo l'unica pelliccia che concepisco era il mio pub, che era molto folto. Ma oggi lo rifarebbe, la mia domanda è giornalistica. Naturalmente lo rifarei, purtroppo non ho il corpicino che avevo quegli 15 anni fa, sono un po' cambiata, ma insomma. Aspetti, che non sento più niente. Che è successo col cellulare? Prenda un po' il cellulare meglio, perché non sentiamo più. Sento ora? Senta un attimo. Naturalmente, comunque, a quel momento fu inserto un grande messaggio a tutti quelli che facevano pellicce, e questo è stato un risultato fortissimo, perché credo che abbiamo dimezzato il traffico delle pellicce in quegli anni. Addirittura, sono esagerato. Io credo che i pellicciai in quegli anni, se mi avessero potuto mandare qualcuno a far fuori, l'avrebbero fatto, le assicuro che mi hanno anche minacciato per molti mesi. Senta, signora Riva Ivana, ma mi viene un po' un sospetto, perché io sono un po' pettegolo da questo punto di vista, ma non è che in quelle foto, siccome Toscani ieri ci ha detto che lui ha in realtà centinaia e centinaia di foto fatte addirittura a partire dal 1990, 91, 92, non è che c'è pure lei in mezzo, no? No, per la verità lì non ci sono, ma niente di male, semplicemente perché non ci siamo incontrati, perché se me l'avesse chiesto non avrei avuto niente contro. Lei l'avrebbe fatto tranquillamente. Ma io l'ho fatto in modo molto più esplicito, perché mentre quelle signorine che hanno messo solo il pub, io in quella mia famosa campagna misi tutto il mio corpo, faccia compresa, non nascosi il mio viso. Era preciso, e mi ricordo una cosa che urlò allo scandalo, addirittura fui chiamato in tribunale per una cosa come quella. Mi ricordo, certo. Senta, ma la Carfagna pure si è arrabbiata, oggi Toscani ha risposto, in realtà aveva risposto già a noi ieri. Naturalmente la Carfagna si è arrabbiata, e c'è stato qualcuno che giustamente ha detto la Carfagna, che si arrabbi la Carfagna, è troppo facile dirla. Ma dica la sua su questo, con la Carfagna che si arrabbia, che pensa lei della Carfagna che si è arrabbiata? Penso che poverina, si vede che ha poco da fare che arrabbiarsi per queste cose, si vede che si deve dare un ruolo, che si deve dare, come si dice, una vernice, che si arrabbia per una cosa del genere vuol dire che c'ha altro da pensare, ecco. Parenzo, non mi pareva il caso che intervenisse pure il Ministero delle Pari Opportunità su una cosa di questo tipo, no? Ovviamente è un po' eccessivo il Ministero su questa vicenda, tutta privata peraltro, cioè lo Stato più sta fuori da tutte queste vicende di letto, personali, di corpo, non soprattutto, meglio ancora. È. Sì, un attimo solo, che dicevi, Parenzo? No, che lo Stato non deve entrare in queste vicende di corpo, lo Stato deve stare fuori dai nostri letti, fuori dalla nostra camera da letto, fuori. Se io voglio mettermi nudo, ho il diritto di mettermi nudo, nudo, certo nel rispetto del pudore e del, come dire, del buon costume pubblico. Questo è un messaggio. Non si sente più nulla, non si sente più nulla. Esattamente puro. Sì, certo, no, non si sente più. Ma io sono d'accordo con lei, figuriamoci. Dico che il ministero non deve intervenire su questo. Ma poi la Carfagna, signora Ripetimana, la Carfagna ha fatti di calendari, Ma adesso è troppo facile riparlare dei trascorsi della Carfagna, vero? Andiamo a dire delle cose troppo ovvie. Diciamo semplicemente che uno che se ne esce con una cosa del genere vuol dire che poverina non ha nient'altro da pensare, insomma, si deve dare un ruolo, si deve dare, non so, un... tra l'altro una si dà una cosa penosa. Sì, tra una cosa penosa lei ha, beh, ha sintetizzato. Un'uscita, una grossa gaffa, ecco. Va bene. La ringrazio molto, la ringrazio molto. Buon viaggio grazie, verso Roma. Grazie. Alle 20:28 era piuttosto trafelata, signora Ripetimana, in collegamento. Sì, no, era accalorata da questa accalorata, un po' una passione. Sì, una passione per ma quel... il marito dov'è il marito? Non lo so, non glielo ho chiesto, ma no, non sarà andato pure lui a Firenze a parlare di questa roba o comunque a presenziare a questa presentazione di Sgarbi del calendario del triangolino pubblico. Andiamo. Non poteva mancare, Sgarbi lì, non poteva mancare Vittorio Sgarbi. Tra l'altro pare che nella nuova trasmissione di Sgarbi su Rai 1, che forse inizierà a marzo, forse ci sarà anche sarà anche Oliviero Toscani, forse. E anche Ahmadinejad ha detto, no? Sì, Berlusconi, sì. Ahmadinejad, Castro, Gheddafi, tutti a parà di Dio. Tutti. Ci sentiamo dopo la borsa. Sarà contento Scilipoti che parla di Dio, A dopo. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Quando il giorno scivola via, si svegliano per me. Quando tutto sembra poesia, la cruda verità, le zanzare di casa mia. E siamo qui 20:34 800 24 0024. Caro Parenzo, che succede adesso? No, vabbè, stasera già è successo tanto, abbi pazienza. Marina Ripetimana, Scilipoti, che vuoi di più? Sono terrorizzato. Abbiamo dovuto cancellare anche qualche appuntamento che avevamo già, perché Scilipoti è stato più che esuberante. Direi di fare un altro tentativo con il prefetto di Genova, telefonino alla mano, 100.000 euro giù di lì per la ristrutturazione del bagno. Pare che sia un bagno importante, in un palazzo importante, qualche soldo bisognava pur spenderlo, però mi sembra un po' troppo, e soprattutto quello che è stato fatto mi sembra eccessivo. E ecco qua, telefonino, vediamo un po' se risponde. Signor Musolino. Due squilli. Due. Terzo, ma non c'è niente da fare, su, è inutile stare, non c'è niente da fare, è così, dai. Altrimenti è prefetto, il parfait, come dicono gli inglesi, i francesi. Ma sei sicuro che prefetto si dice parfait? Parfait, no, il parfait è il dolce, parfait, no? No, parfait è perfetto. Ma è un dolce aggettivo. Anche. Comunque c'è anche un hammam con porta computerizzata e illuminazione speciale per sedute di cromoterapia nell'appartamento del prefetto di Genova, come segnale di pubblico. Un hammam con porta computerizzata. Una mamma con porta computerizzata, sì. Poi la vasca installata a Palazzo Doria Spinola, completa di rubinetteria e motori, pannello di comando e diffusore di aromi, è costato 8.577 euro. Sì, però dai, qualcuno può dire il Palazzo Doria Spinola è un palazzo storico, è un palazzo che serve anche da rappresentanza, eccetera, eccetera. Coperture lapidee del tipo verde Alpi e verde Giamaica, alternati a bianco Calacatta, ricoprono le pareti e parte del pavimento del bagno, sempre da Repubblica. L'installazione di rubinetti e sanitari serie lusso hanno implicato costi aggiuntivi del 20-30% per la particolarità degli elementi scelti. Figurati. Questa è la spesa. Uno può dire per un palazzo del 500, per un palazzo di rappresentanza, sono cose che si possono fare. Stiamo parlando in fondo di 100.000 euro, o no? Sì, però non c'è. Ma che Non ma lo so, no, è una domanda che mi faccio. Domanda legittima, ma dobbiamo dare una risposta assolutamente tranchant per prepararci. Non si può fare. Non si deve fare. Cosa c'è nel palazzo del 500? Perché nel palazzo del 500 c'era sta roba. C'è la mamma. Che bisogno ha il prefetto della mamma? Le prefetture vanno chiuse subito, vanno chiuse immediatamente. Scilipoti, anziché occuparsi di quelle minchiate lì, le cose che dice, chi è? Che no, non c'è niente, continua. Invece di occuparsi. Se io occuparsi delle sue cose lì, bar, farmacia, acupunture, parlare di Dio, di banche, faccio una bella proposta, aiuti la Lega ad abolire queste prefetture, che ci spieghino che cosa servono le prefetture. Cioè, il questore a cosa servono le prefetture? A me lo dici. Il questore già riferisce al ministro degli interni. A che servono le prefetture? A me lo dici. A fare la mamma. In questo caso anche a fare la mamma. Vabbè, ma non... Nel palazzo del 500. Non mi fare diventare populista su questa ma cosa. Non è questo qua. Il populismo, questo è il buon, non è populismo, il buon senso è diverso dal populismo. Il buon, noi abbiamo ogni tanto dobbiamo tirare fuori un po' di sano buon senso. Qui non si tratta di essere, cioè, tu populisti. Dici la mam, il bagno turco non c'entra euro. Niente con la prefettura. Guarda, con la prefettura. 100.000 euro per rifarsi un bagno, cioè delle regole non si può fare, perché con 20.000 euro, ma sì, dir tanto, ti rifacevi tutto il bagno. C'è anche l'abbattimento di una pensilina specifica oggi, non so chi, il provveditore. Ma quale pensilina? Ma che stiamo parlando? 100.000 euro, ti compri un monolocale con 100.000 euro in provincia di Genova. Provincia di Genova con 100.000 euro, compri un monolocale, va bene? E perché devi ristrutturarti un bagno? Mauro dalla provincia di Roma, usate i suoi soldi. Beh, adesso non esagerare. Buonasera a tutti gli ascoltatori, Mauro. Grazie di Mauro, lei che ha fatto? Ha ristrutturato un bagno qualche volta? Ha ristrutturato un bagno? Ma guardi, io mi preoccuperei della gente che forse non ha neanche 2.000 euro in questi giorni per ristrutturare un bagno, e questi si permettono il lusso di queste cifre iperboliche. Lasciatemi la battuta. Però io onestamente intervengo mettendo all'oggetto di esso un po' l'uso improprio che a volte viene fatto del mezzo pubblico. Io sono uno che ascolta Radio 24 e devo dire che fate ottima compagnia a me e le persone che fanno i viaggi insieme a me. L'argomento era un po' sul comportamento dell'onorevole Scirivoti rispetto a quello che è successo qualche minuto fa. Penso che sia, se posso concludere un attimo il ragionamento, poco corretto nei confronti dei telespettatori che ascoltano la vostra trasmissione radio, proprio perché è ironica, sì, perché comunque sia pungente, perché è puntuale e perché dà la possibilità a noi poveri mortali, sì, forse anche di farsi un'idea. No, però non ho capito, Mauro, chi sta rimproverando lei? Non ho capito bene. Anche il parlamentare della Repubblica Italiana che in questo momento Scilipoti, vabbè, ma lei spara sulla Croce Rossa, però ma sì, ma per l'amor di Dio, sparare però sulla Croce Rossa però è successo e questo a mio avviso non dovrebbe succedere. Vabbè, ma Scilipoti non voleva far parlare Parenzo, storpiava il suo nome, non mi pare una cosa. Ma no, non credo che sia un dramma nazionale. Non è un dramma nazionale. No, non è solamente un dramma, è che magari invece dal parlamentare, chiunque so sia, io mi sarei aspettato, a parte il fatto di far intervenire il signor Parenzo, che avesse rispettato comunque un pensiero di un radioascoltatore che tutto sommato non entrava proprio nello specifico del la sua vita parlamentare, diceva, come io per esempio penso, che questo passaggio così molto circenso poteva essere contestato da un radioascoltatore, con molta tranquillità, con molto rispetto per la vita parlamentare. E invece non ha voluto accettare nemmeno la critica del radioascoltatore Marco, se non ricordo male, che diceva, accusandolo, lei non conosce la mia attività da parlamentare, io ho presentato interrogazioni, proposte di legge, prima di parlare di me dovrebbe informarsi, basta che clicchi sulla Camera dei Deputati e capisce quello che ho fatto. Ma fosse così semplice. Mauro, la ringrazio. L'ambulanza va mentre la città finalmente sa che mostro sei, tu pietà non hai. L'ambulanza va. Emanuele da Pavia, buonasera. Buonasera, grazie Cruciale. Dica, signor Emanuele. Senta, io volevo fare un appello portando un caso personale agli italiani. No, i casi personali no, perché i casi personali mi fanno cadere le braccia. No, non è un dato personale, è un fatto personale. Un fatto, cioè, pure quelli mi fanno cadere le braccia. Comunque racconti, dica. No, però è significativo di una... Dipende se è significativo. Comunque, dica. Diciamo, mi rappresenta un po' in una Che le è successo? Che le è successo, Emanuele? No, niente, io volevo appunto agganciarmi al discorso giustizia, perché io mi ritengo un po' un cittadino, tra virgolette, onesto in tutto quello che ha fatto, cioè nella vita, e ho sempre rispettato lo schema delle leggi. È un po' come tutti. Poi alla fine un bel giorno rimango a, diciamo, danneggiato da un fatto che è penale, no? della giurisprudenza penale. Che vuol dire, Emanuele? L'hanno arrestata? Che è successo? No, io assolutamente. No, io vado a cavare spesso e sono entrato, diciamo, in un sentiero demaniale di una persona un po' pazza che è uscita con una pistola, me l'ha puntata in faccia, mi ha tagliato. E lei che ha fatto? No, io niente, poveraccio come sono, se non mi sono messo a piangere quasi, ovviamente, vabbè. Vabbè, ma insomma, perché ci racconta questa storia? No, non ho capito. Poi dopo 3 anni di processi... Ma processi per che cosa? Per questo tizio qua che io dopo ho denunciato e... Vabbè, lei ha denunciato perché le ha puntato una pistola, allora? Ecco, no, niente, ci abbiamo messo 3 anni a finire il processo, sì. In cui ogni volta che andavo al tribunale ero bloccato da, diciamo... procedimenti penali contro gente ubriaca alla guida, veramente, cioè, come ubriaca alla guida? Ma di che sta parlando, Emanuele? Non ho capito. Lei va in un tribunale penale, sono stato 3 volte negli ultimi 3 anni, va in un tribunale penale su 10 processi che ci sono lì, 8 processi sono gente ubriaca. Ah, lei sta dicendo che c'erano molte udienze che si accavallavano, eccetera, eccetera. Non ho capito, lei è stato coinvolto in un procedimento contro questo signore che le ha puntato una pistola. E allora? Volevo appunto denunciare, che volevo agganciarmi al discorso legittimo impedimento e qualunque altra cosa che questo governo sta facendo sulla giurisprudenza, sulla... Ma che c'entra, legge. Scusi? Non ho capito. Stanno rallentando veramente dei processi che potrebbero concludersi in 10 minuti, perché questo qua me l'ha puntata di fronte a... Emanuele, cerchiamo di ragionare in maniera... più o meno normale, insomma. Adesso non è che attraverso il legittimo impedimento viene rallentato il suo processo, abbia pazienza, cioè, lei ha capito male, non c'entra assolutamente niente. Il problema della lentezza della giustizia italiana è una cosa, e su quello lei può avere anche ragione, ma questo non c'entra assolutamente nulla con la questione del legittimo impedimento, che pure allunga, diciamo, i processi, anche se i termini restano gli stessi, però insomma non c'entra niente con le sue disavventure e con il suo contenzioso. Dove andiamo? Caterina da Como, buonasera. Salve. Mi dica, signora Caterina. Salve, io volevo intervenire sulla questione della Fiat. Prego. Ho sentito in questi giorni tante persone esprimersi sul discorso della Fiat, sul referendum, eccetera. Ho dato una lucidatina stamattina, Parenzo. Al busto, ho dato una lucidatina. Stavo seguendo anche il programma prima della vostra trasmissione, in cui si parlava appunto della produttività degli operai in Italia confrontato con quelli in Polonia, in Brasile. È un fatto, insomma. Certo. Che bello il busto, la lucidatina ho dato stamattina, la testa di Marchionne, la lucidatina. Ormai sarà lucidissimo. La cera ho dato. Ogni giorno, in questi giorni di battaglia do una lucidatina al busto di Marchionne, certo. Caterina, mi dica. Quello che a me premeva è dire che ho sentito tante persone esprimersi da tutte le parti, politici, ma tutti stanno dicendo la loro su questa cosa. Però nessuno, cioè io vorrei veramente che le persone che parlano tanto in questo periodo provassero a fare un giorno in fabbrica. Ma questa è una stupidaggine, mi scusi se io dico in maniera piuttosto... Come, scusi? Questa è una stupidaggine sesquipedale, come dico io di solito, Caterina. Per giudicare questa questione bisogna per forza andare in fabbrica, abbia pazienza. Non è, però, Caterina. Queste persone secondo me non hanno idea, ovviamente ognuno può dire la sua opinione, però secondo me molte persone non hanno idea di cosa vuol dire fare 8 ore sulla catena. No, è vero, lei ha ragione, io non ho idea di che cosa significa fare 8 ore sulla catena. No, ma io lo dico. Di tutto, anche di tanti questi politici o... Scusi, ma lei invece ha idea? No. Lei ha idea? Ma io lavoro, non mi va di dire dove, ma lavoro. Lavora in fabbrica, in una fabbrica metalmeccanica? No, non lavoro in una fabbrica metalmeccanica, lavoro in un altro settore. In che settore? Fa l'operaia nei turni di notte o ai turni di produzione? No, non faccio turni di notte, faccio turni di giorno. Fa ma turni? Al di là di questo... Ma come al di là di questo? Lei rimprovera gli altri? Quando io giudico le cose che non mi riguardano, cerco sempre di avere la sensibilità, di informarmi e di sapere anche, cioè di mettermi dalle parti di chi riguarda questa cosa. Ho capito, Caterina, però lei sta rimproverando a quelli che parlano sulla vicenda della Fiat di non sapere come lavorano queste persone, di non aver mai vissuto, di non aver mai vissuto quelle persone che in questo che sento parlare. Ma per lei è la stessa cosa, per lei è la stessa cosa, è uguale. Infatti io comunque, a parte che io non ne parlo, nel senso non ho. Ma come non ne parla? Dice voglio intervenire sulla Fiat, ha detto prima. Sì, esatto, per dire questa cosa, nel senso che secondo me molte persone parlano non si... sapere ho capito. Di cosa. Cioè, di secondo cosa lei non si dovrebbe parlare, non si dovrebbe parlare. No, bisognerebbe parlarne ovviamente, ma informandosi. Vabbè, sì, quello è la speranza di tutti noi. Non sempre vedo che questo, l'informazione che vengono dati e le pareri e le discussioni vengono fatte nel modo giusto. Può darsi che ci sia qualcuno informato, qualcuno disinformato, qualcuno che omette qualche informazione, altri invece che hanno interpretato male alcuni passaggi dell'accordo, ma insomma quello fa parte della normalità della discussione traffico. L'ambulanza va mentre la città finalmente sa che mostro sei. Caro Parenzo, voglio un disegno di un'ambulanza con la faccia di Scilipoti che esce fuori. Che qualcuno si muova, che lo faccia questo disegno. Grande appello ai radioascoltatori. Giusto, la foto, giusto. Un disegno di un'ambulanza con la foto di Scilipoti, non che guida perché là ci sono gli infermieri, ma la foto di Scilipoti che esce fuori da un finestrino e saluta tutti ridendo, magari col braccio così, no? Col braccio. Che meraviglia. Col braccio. Diventerà un oggetto culto, io ne voglio una, assolutamente. Sai quella foto che è grandiosa che ha pubblicato Benny sulla prima pagina di Libero con Berlusconi che fa tiè il giorno dopo la... Il giorno dopo, sì, io voglio la faccia di Scili, la faccia di Scilipoti dentro un'ambulanza che fa tiè, così. Magari Benny ci ascolta, farà produrre qualcosa. Benny, facci una cortesia. Intanto il mitico gastronauta Paolini ci comunica tramite gli SMS che anche lui era da Sgarbi tra i relatori alla presentazione del calendario per i conciatori toscani. Fantastico, lo sapevamo. E andiamo a Luca da Genova, anzi no, prima la fondatrice dell'associazione Frida, Milena Sciosha. Buonasera. Buonasera a tutti. Senta, perché se l'è presa? Buonasera, perché se l'è presa con Toscani? Scusi, signora, anzi con Sgarbi, con Toscani, perché ve la prendete per questa cosa? Ma lasciate fare i calendari con il triangolo pubblico. Allora, tengo a precisare prima di tutto che non eravamo lì presenti per prendercela con nessuno. Vabbè, volevamo, okay. Signora Sciosha, però non mi faccia la diplomatica, la politica pure lei. Vada subito. No, non ci tengo per niente, guardi, sono molto schietta, però le dico appunto la verità. Noi avevamo semplicemente intenzione prima di tutto di divulgare una segnalazione sul messaggio pubblicitario che è uscita oggi, ed è appunto del comitato di controllo. Ma che è il comitato di controllo? Il comitato di controllo della pubblicità, quindi le leggo due righe. L'organo di controllo ha ritenuto tale comunicazione offensiva della dignità della persona, in quanto il corpo femminile viene equiparato alla pelle conciata, ovvero sia ad un prodotto di un animale ucciso, sezionato e trasformato in prodotto di lavorazione, rilevando pertanto il contrasto con l'articolo 10 del codice, secondo cui la comunicazione commerciale deve rispettare la dignità della persona umana in tutte le sue forme ed espressioni. Scusi, Non continuo perché è meglio non continuare. No, abbiamo capito poi il succo della contestazione. Posso esprimere un mio giudizio su questo che ho appena sentito? È una stronzata. Questo è il mio giudizio, un po' così, magari tranchant come al solito. Ma mi pare una stronzata al cubo. Tu che aggiungi, Parenzo? Cosa vuoi aggiungere tu, Parenzo? È una stronzata al cubo. Perché ma cosa c'entra il rispetto del paragone? Una cosa assurda proprio. Solo in Italia può succedere. Solo ambulanza per chi ha scritto questa cosa. Mi scusi, signora Sciosha. Posso intervenire? Come no? Dica pure. Allora, il punto che secondo noi siamo un'associazione che lavora con donne vittime di violenza. Questo non c'entra niente, ecco, no? Ecco, quindi no, c'entra perché? Perché veicolare un messaggio culturale ha un senso e ha delle conseguenze. Quindi, ma non è che quel calendario istiga la violenza sulle donne, abbia pazienza. No, non è questo che intendo dire. Intendo dire che associare un una parte del corpo, la parte del corpo della donna, ad un oggetto e mercificarlo in qualche modo. Ma qual è l'oggetto? Scusi, dov'è l'oggetto? Dov'è l'oggetto? Scusi, qual è l'associazione? Lì è un calendario dove ci sono 12 foto. Durante tutta la presentazione del calendario, mi scusi, durante tutta la presentazione del calendario, la parola che è stata usata per riferirsi alla vagina è stata oggetto. Tant'è vero che la contestazione, poi quella un pochino meno diplomatica, come dice lei, ma un po' più di pancia, è avvenuta proprio lì, perché alla quinta volta che si parla di una vagina, che tra l'altro, vabbè, le ricordo, lì la intendevano, la violenza sulle donne è la prima causa di morte sulle, delle donne, quindi a continuare ad associare una parte delle donne ad un oggetto, no, però, mi scusi, può essere pericoloso, però, tra noi alti e colti e bravi magari no, però si veicola questo messaggio in maniera molto forte. No, però mi scusi, secondo lei il messaggio che viene fuori da questo calendario, dal modo in cui è stato presentato, non è che è stato presentato in tutta Italia, è stato presentato lì a Firenze all'interno di Pitti, Uomo, eccetera. Comunque, secondo lei il messaggio è quello che il pube, il triangolo pubblico, come l'ha chiamato ieri Toscani qui su Radio 24, è un oggetto e dunque questo potrebbe stimolare chissà quale, non so, mi spieghi, non ma capisco. Ma non lo stimola niente, è un dato oggettivo. Nel momento in cui si usa un linguaggio, lei lo saprà sicuramente meglio di me perché è un comunicatore, se uso un linguaggio io veicolo dei messaggi, giusto? Quindi se uso un linguaggio in cui si parla, e ripeto, è stato detto durante tutta la presentazione, si parla di una vagina che, ripeto, è davvero oggetto, ma oggetto nel senso di ma non intendevano oggetto, scusi un attimo, certo, certo, però quindi, signora Sciosa, ma non intendevano questo, posso intendere, posso interpretare posso niente, interpretare un attimo questa cosa dell'oggetto, perché conosco Toscani, conosco Sgarbi, conosco Paolini che era lì, e io non credo che abbiano un'idea del corpo femminile come un corpo, come oggetto, nella maniera infatti, più deteriore del termine, dicendo, semplicemente parlando si riferivano all'oggetto in quanto non distinto dalla donna in quanto persona, abbia pazienza, è evidente, no, che è così, o no? Ma infatti le ho detto poco fa che tra chi in qualche modo comunica di arte o comunica ad un certo, mi passi la parolaccia, ad un certo livello di consapevolezza, bene, il punto è che noi quando comunichiamo non comunichiamo soltanto tra, no, livelli omogenei, comunichiamo un messaggio che arriva. Abbassi arriva la radio intanto, se no non sentiamo niente, se lei non spegne abbassa la radio perché abbiamo un ritorno. Senta, signora Sciosa, però le voglio chiedere una cosa. Voi avete contestato anche sia ieri, credo, e anche oggi, il fatto, proprio al di là della parola oggetto, il fatto stesso che Toscana abbia fatto questo calendario con il triangolo pubblico, con queste fotografie. Perché contestate questa cosa dicendo che è un'offesa al corpo delle donne? Mi scusi. In questo contesto è un bisticcio di parole. In questo contesto è quale contestabile contesto? Perché l'oggetto, appunto, come viene chiamato, diventa merce, no? Viene perché diventa merce? Prima di tutto perché viene, guardi, lei non c'era oggi. No, ma lasci perdere oggi. Non voglio sapere oggi perché non abbiamo tempo. Poi magari la richiamiamo nei prossimi giorni, ma il punto è uno solo. Perché fare quel calendario? Lasci perdere per chi l'hanno fatto, i conciatori di pelle fiorentini. Perché fare un calendario con 12 foto del triangolo pubblico dell'organo sessuale femminile vi scandalizza? Perché? Allora, no, non ci scandalizza assolutamente l'immagine della vagina. E che le cosa allora? Che noi portiamo in scena i monologhi della vagina. In un sacco di luoghi ci è stato vietato di portarle in scena, e lei li conoscerà benissimo, sono un pezzo d'arte di teatro ormai da un decennio allora? Almeno. Ci è stato vietato perché la parola vagina scandalizza gli animi. Io mi chiedo, anzi noi ci siamo... Vabbè, sbagliato, allora... Allora, come mai scandalizza una parola vagina che in realtà è una parola pulita, sana e invece non scandalizza il fatto che si entri in un luogo in cui vengono appese 12 pezzi di pelle conciata di animale e vengono associate ad un... Ah, poi scandalizza vagina. L'associazione. Comunque, lei ha la parola perché vi scandalizza così, non è che ha dato una risposta chiarissima. Merce, non la l'oggetto parte di un corpo, la merce, una donna, la merce. Come merce. Ma non c'entra nulla. Ma è una forma, sono 12 fotografie, perché bisogna interpretarli come merce? Sono 12 fotografie, devo chiudere, ci sentiamo domani 18:30. Grazie, signor Sciosa. Ciao Parenzo, ciao. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come?